Dagli studi fuori norma di Italian Podcast Network, con le avveniristiche attrezzature scartate dal terzo mondo, condotto da un coraggioso manipolo di brutta gente e col fondamentale patrocinio di Morgan, va ora in onda Dietrologia Videoludica. Benvenuti a questa nuova edizione di Dietrologia Videoludica. Questa è la 12ª puntata e si parlerà di tante cose brutte, o forse no. Si chiama la puntata I Bucanieri del Terzo Millennio e con me in questo episodio a presentarlo, perché poi è quello che è stato purtroppo sorteggiato con il vecchio metodo della pagliuzza a fare l'improvviso presentatore, è il nostro mitico incazzato Alex J.J. Abrams raccoglie i suoi lens flares. Ciao, ciao Alex, come va? Ciao ragazzi, tanti buon lens flare a tutti. Grande, grande, perché lui mette i lens flare anche nelle parole, è una cosa bellissima, emana lens flare. Invece dall'altra parte anche lui, potrebbe essere anche lui un po' incazzato perché viene dal nord, ma lui in realtà è un po' democristiano dentro, c'è un po' questa bontà d'animo che traspira dai pori e diventa nebbia. Abbiamo Roberto Bertoni, direttamente da OGI. OGI. Ciao a tutti OGI. Ragazzi, traspiro amore verso i vostri confronti, verso le vostre famiglie. E carezzate i vostri bambini e salutateli quando tornerete a casa. Date un bacio ai vostri bambini e dite che l'ha dato Bertoni. Questo è un messaggio che va dato a tutti quanti, anche ecumenico oggi. E poi c'è un ospite che in realtà non è un ospite, perché lui fa finta di essere l'ospite, ma in realtà è un po' come l'uomo dietro la tenda, diciamo, l'eminenza oscura, il nostro Vate, che è tornato a trovarci e a portare un po' di dottezza, se si può dire così, perché noi siamo la gente che impara l'italiano, che ci ascolta, ed è venuto proprio da Chieti, Louis Doc Brown Marrone. Ciao a tutti. Sei venuto da Chieti, sì, perché io ho sparato una città cosaccio. Chieti, perfetto. Chieti. Cioè, azzeccato. Guarda, è incredibile. Talmente internazionale come città. Io sono venuto qui comunque veramente come ospite perché voglio apprendere di più sulla pirateria, sui vuoi diventare digitali. Un pirata come Guybrush Threepwood? Sì. Io faccio parte di quelli che non hanno soldi per comprare videogiochi, per cui mi farebbe comodo, insomma. Diventare un bravo pirata. Ma l'importante è fare vincere il duello col maestro di spade, trovare, andare dentro la casa del governatore, queste cose qua poi ti insegni, anzi ti impariamo dopo. Va bene. E basta, le persone sono finite perché Saso è ancora latitante, poi invece ci sarebbe Stefano che doveva venire qui stasera al mio posto, però in realtà è stato preso di forza dai suoi datori di lavoro ed è stato legato nella macchina del caffè. Mi sembra, non so se voi avete avuto altre notizie, ma purtroppo penso che l'abbiamo perso stasera, io non lo so. Sì. È andato. Ma dopo tutto guadagna milioni di euro, è anche giusto che una sera potrebbe anche dedicarsi al lavoro, insomma. Vogliamo dare, se qualcuno è in grado di rifarlo senza incespicarsi nella lingua come faccio io, i nostri riferimenti? Vado io, dai. Dai, Alex, dai. Dagli studi fuori norma di... Ah no, non sono questi. Allora, i nostri riferimenti sono il nostro bellissimo sito che aggiorniamo ormai praticamente ogni 25 minuti con delle bellissime immagini, che è www.dietrologiavideoludica.it. La nostra pagina... Bellissima. Grazie. È il sito bellissimo. Ah, il sito. Certo. So, il bellissimo è il fatto che lo dicessi. Anche quello, ok. La nostra pagina Facebook, indovinate un po', è Dietrologia Videoludica. Mentre l'utente Twitter è chiocciola dietrologia videoludo. Capisci adesso perché l'ho fatto leggere a te, no? Soprattutto per questo Twitter dietrologia videoludo, che è veramente difficile da dire. Sì, io l'avrei chiamato dietroludica, però vabbè, probabilmente c'era già una pagina porno. Forse ce n'era anche 25. La nostra posta elettronica, e ve lo dico, ma tanto ormai, cioè, più che ammuffire, c'ha dentro le ragnatele e le non mummie. È vero, io la uso tantissimo, ci ha scritto anche una persona. Ah beh, allora signore e signori, usate la nostra bellissima posta elettronica dietrologiavideoludica@gmail.com. E basta. Scriveteci tanto se volete fare i redattori. Ricordatevi che c'è sempre un livello minimo di cialtronaggine che va rispettato, cioè dovete prendere esempio noi, ovviamente me e Simone in primis, che siamo, e Stefano, che siamo i più cialtroni di tutti, e da lì muovetevi. Se pensate di essere meno cialtroni di noi, allora va bene. Se siete più cialtroni di noi, beh, allora cercate di migliorare, di raggiungere almeno la nostra minima cialtronezza, insomma, IT 08440. Cos'è X, questa cosa? È il mio IBAN per entrare a dimostrare che siamo cialtroni. Ah, certo. Purtroppo si possono solo mettere soldi, vero, nell'IBAN, non si possono prelevare. Sì. Peccato, vabbè. Quindi niente, se siamo tutti quanti, io direi che è il caso di cominciare ad andare avanti, perché sennò possiamo continuare a dire cazzate fino alle 2 di notte. Non so, ditemi voi, andiamo avanti? Andiamo avanti, dai. Ingrediamo la prima? Ingrediamo la prima. Andiamo alla parte centrale del nostro programma. Allora, innanzitutto mi scuso per il mio accento non protosardo e non allenato quanto quello di Marco, quindi già per questo parto svantaggiato, però potrei provare comunque a leggere per il vostro piacere uditivo. Allora, oggi parleremo della pirateria, dei simpatici DRM e della lotta, persa, vinta, contro questo fenomeno e contro, soprattutto, quei giocatori che acquistano lecitamente un prodotto. Ci chiederemo dove nasce questo fenomeno e quali misure sono state prese per combatterlo. Limitazione alle installazioni, connessione a internet permanenti, sistemi di autenticazione necessari e protezioni invasive al limite del legale. Star Force Anyone? Tutti elementi che spesso fanno impazzire i giocatori paganti e non danno particolare noia ai pirati. Ci chiederemo poi quanto sono efficaci questi orpelli e quanto veramente la pirateria crea un danno all'industria, soprattutto in considerazione del day one, momento critico in cui le vendite tendono a concentrarsi. Ecco, infatti abbiamo visto che ci faremo parecchie domande, ma come al solito le risposte non le daremo, perché è il nostro DNA. Quindi andiamo, cominciamo a farci queste domande. Chi è che comincia a domandare? Ma i voti? Cioè, noi siamo qua per giudicare, voti. Cioè, noi siamo la generazione X Factor. C'è ragione, non possiamo non dare i voti a Roberto. E poi diamogli dei voti. È un programma che ha il patrocinio di Morgan, più X Factor di così. Certo, voglia. Eccolo. Beh, comincio io con i voti. Vai, ti sei immolato. Ovviamente per i voti, visto che siamo una generazione X Factor e dobbiamo tenerci a passo con la modernità e con il sistema della società dei voti e dei compromessi, Roberto, che mi dai se ti do un 8? IT 08440. Mi dai il tuo IBAN? Beh, allora 4 meno. Questa è giustizia. No, diciamo che potrei, vediamo un po', una PlayStation 4 che mi avanza, una cosa del genere. Va bene, allora dai, facciamo. Io do un 8 e mezzo a Roberto Meristrameritano. Sulla fiducia. Sì, sulla fiducia, sì. Allora, io invece ho soltanto un dubbio, perché non so se c'è stato un lag o a un certo punto si è perso un pezzo, Roberto. Non vi è risultato? Ma a me non è risultato. Ma... Ah, allora, neanche a me. Se lo dice Roberto, giustamente. No, nessun lag, andava bene. Andava bene. Allora, gli do anche io un 8, però meno, perché non possiamo sennò far sfigurare Stefano, che lo stiamo imparando ormai da mesi, giustamente non è che... Figura. Quindi gli do un 8 meno. Chi è che sta battendo le mani? No, è solo il pubblico. È il click del mouse, chiedo scusa. Ah. Pensavo se il pubblico mi applaudiva in ola. Sì, ma apriva così. Inizia il ritmo piano piano, poi cresce, capito? È il tuo ritmo, stai dettando il ritmo anche nel pubblico, è bellissimo. E invece Alex? Ma io mi accodo a Luigi, un bel 8 e mezzo, ci stiamo perché devo dire che quello che manca a Bertone, cioè la sensualità della sarditudine, un po' quella di Geppi Cucciari. La sardezza, però lo ripaga con una maggiore scioglievolezza nel discorso. Secondo me se Roberto si compra un microfono decente funziona, per cui per me sì, mettere le mani a forma di X, che bello. Grazie Ricky. Vabbè, quindi sei stato promosso proprio, diciamo, a pieni voti, dai, alla fine... Sì, infatti. Devi essere soddisfatto. Sei soddisfatto, sì. Sono soddisfatto. Penso che adesso mio figlio potrò raccontare a mio figlio questa cosa e lui sarà fiero di me. Ok. Ti ricordi quando mi raccoglievi la cacca, papà? Vai fiero. Sì, sì. Perfetto. Direi di andare avanti. Chi prende le redini? Alex? Ok, tocca, signore e signori, teleascoltatori e telespettatori, come siete? Le redini, li prendo io, per cui vi beccate la voce antipatica. E cazzi vostri, che vi devo dire? Cioè, stasera c'era Simone che doveva fare la cacca, per cui ho detto, chi è che viene qua? E la pagliuzza più corta è toccata a me, allora sono arrivato. Oggi parliamo di quello di cui parliamo ha già parlato Roberto, per cui andiamo direttamente, visto che già siamo ben lungi dalla nostra completazione scalettica, a parlare di copyrights. Che cosa sono? Come possediamo? No, cosa possediamo veramente di un videogioco? Vai. No, diciamo che il discorso è interessante per capire appunto cosa sono i copyrights e in che modo appunto questa cosa poi ha generato, scatenato il discorso della pirateria. La faccio semplice, penso che lo sappiate tutti: quando comprate un videogioco non comprate fisicamente il videogioco, ma comprate una licenza d'uso. Per dirla. No, porco due, no, ma davvero? No, ma io ho tutti quei CD, quindi non sono miei. In realtà non sono miei. Diciamo che tu possiedi solamente il supporto e la possibilità di utilizzare quello che altri hanno sviluppato. La sto facendo molto semplice, nel senso che poi penso che andrebbe comunque, se entriamo nel territorio legalese, passatemi il termine, sarebbe sicuramente più complicato. Però diciamo che appunto non avete il videogioco in sé. Tanto è vero che fino a qualche anno fa c'era sempre questo dibattito, copia per uso privato sì, copia per uso privato no, quanto questa potesse essere fatta, se che problemi ci fossero. Quindi potete capire che comunque il fenomeno in sé è abbastanza complicato. Quindi la pirateria cosa nasce, cosa sarebbe? In pratica è qualcuno che dice no, col cavolo, quello che è mio, ne faccio quello che voglio, e quindi da una parte ne permetto la copia, quindi la metto a disposizione di chi voglio, d'altra parte, in maniera speculare, posso prendermi quello che altri mettono a mia disposizione. Questo è il fenomeno, diciamo, allargato per quello che riguarda la parte pirateria. Quindi è un cercare di togliere quella che è la proprietà privata a livello di, se vogliamo, di comunismo videoludico, cioè io sto proprio usando i termini magari fuori luogo, ma per dare un po' l'idea di quello che è il pensiero. No, nota come Bertone non faccia politica, ha detto che i comunisti sono tutti ladri. lascio ai teleascoltatori il giudizio morale su queste affermazioni. E ogni fatto e persone sono puramente casuali e il mio avvocato risponderà per tutto. E no, appunto, quindi questo al posto tuo risponderà, ce lo mettono lui in galera. No, è lui che sta parlando per il podcast, è questo il discorso. Io no. Questa è una voce registrata, sono affermazioni che io non ho mai fatto e non ho mai copiato un gioco in vita mia, eccetera, eccetera, eccetera. Banfa, ragazzi. Banfa. Comunque, passati. Diciamo, questo era un attimo il cerchio all'interno del quale andremo per parlare di pirateria informatica, o meglio, pirateria videoludica. Mi attacco velocemente al secondo punto e poi magari discutiamo un attimo su questa cosa, così Alex può passare la palla. Nel senso che a fronte di quello che sono i copyrights, quindi questa licenza di utilizzo, abbiamo diverse licenze nello specifico. Abbiamo il copyright, abbiamo lo shareware, il freeware e diciamo una sorta di... Sentite, ammirate, che perfetta padronanza della lingua inglese. Lo shareware, il freeware, bravo, complimenti. Non avrei saputo dirlo meglio proprio. Non avrei saputo dirlo. Però ce la mettiamo di Stefano, però vabbè. Alla fine. Il mio avvocato sta prendendo anche i vostri indirizzi in questo momento, giusto per... Io Mario Rossi sono, poi tranquillamente dirgli il mio nome e cognome. Non come ho sei, veramente, se proprio le minacce, troverete una testa di cavallo sul letto del vostro signore. Mamma mia, oh. So dove abiti, so quanti anni hai e so sì, anche le e quando ti ho invitato a cena non sei neanche venuto, vaffanculo. Ho preso le foto però nel frattempo, quindi in modo tale che un giorno magari mi troverà lì a cena. No, chiudo duramente, se no mi sento che il mio avvocato mi taglierà il discorso, collegando il discorso licenza con una sorta di licenza fittizia che è, questo parlo di un fenomeno che si era sparso per la rete fra i 10 e 15 anni fa più o meno, utilizzando sempre la mia perfetta pronuncia, il fenomeno abandonware ovvero a un certo punto si è creato una sorta di manifesto in cui si diceva: guardate, tutti i videogiochi che hanno più di 10 anni possono essere scaricati, copiati e diffusi in maniera libera, il copyright non esiste più. Tutto questo chiaramente era stato creato senza basi legali, ma solamente su una sorta di passaparola. Passaparola che però era diventato praticamente legge sulla rete, nel senso che tutti ci credevano, pensavano che fosse una cosa legale, e se da una parte c'era qualcuno che magari lo faceva non propriamente convinto e diciamo la prendeva comoda, c'era gente che invece era molto convinta del fatto che fosse effettivamente possibile copiare o diffondere giochi che avevano più di 10 anni. Quindi potete capire che il panorama è abbastanza vario. C'è chi ha seguito la corrente, c'è chi ha fatto i propri comodi, c'è chi invece in qualche modo cerca di difendere la possibilità di tutti di giocare. Però magari qua entriamo un po' troppo nello specifico. Vabbè, molto bello questo. Bella questa introduzione, molto chiara, molto... Quindi quella cosa dei dieci anni... Che sono, ancora ci sono i battiti dei... Che cos'è? E il pubblico continua a acclamarmi, non lo so. Ok, sempre con un così. è il finale che arriverà in crescendo, quindi adesso, per adesso va bene così. Quindi quella storia della bandware è una minchiata, quindi... Sì, non ha mai avuto nessuna valenza legale. Non è vero che dopo 10 anni tu puoi scaricare gratis i giochi. È legale comunque. Assolutamente. Tanto è vero che... Allora, aspetta un attimo che stacco i torrent, allora. Un secondo che... la battuta, dai. Assolutamente vero. Quindi non stai poi pescando? Passi... No, assolutamente no. Poi mi dai il numero del tuo avvocato. Ok. Sì, questa è l'introduzione un po' generale. Volevo introdurre poi magari in maniera successiva la categoria dei giochi liberati, nel senso che è una successiva evoluzione del fenomeno abandonware, dove praticamente alcune case decidono di rilasciare i propri giochi precedentemente sotto copyright come liberi. Giusto per fare qualche esempio, i primi GTA per qualche tempo erano stati lasciati come liberi, Flight of the Amazon Queen è stato lasciato come libero, Dracula è stato lasciato come libero, nel senso che a un certo punto dicono: ok, noi non possiamo più ricavarci soldi, o meno non vogliamo più ricavarci soldi, quindi lasciamo il gioco liberamente in libera diffusione. Chiaramente, scusa, ma ti sei dimenticato di citare tutta la roba della ID Software? Credo, sì, che anche fino a Quake 2 abbiano rilasciato, no? Sì, ma non i giochi, ma i motori, i sorgenti, non è il gioco vero e proprio, quindi ci sono differenze particolari anche lì. Ok, sì, ok, giusto. Quindi io questo perché purtroppo, o per fortuna, su questo tema ho, fra virgolette, studiato per diverso tempo, perché sto creando di farci un sorto di progetto archivio che poi è rimasto lì fra le n cose che vorrei fare, quindi... Sta cercando di alzarci i sordi? Esatto, no, no, soldi mai, qua si lavora per la gloria e per i voti. Si lavora e si fatica per la gloria e per i voti. Quindi facciamo, non so, cominciamo a fare un piccolo excursus storico dei primi sistemi antipirateria, che ne so, c'era qualche sistema all'inizio quando c'erano i primi videogiochi, so, cosa c'era? Sì, volevo tagliarvi io. Non vi affollate. No, tocca a Luigi, c'è senso che io vi ho tagliato abbastanza. No, ma io vi ripeto, sono qui per ascoltare. Vi ho detto, infatti, per le puntate interessantissime, sono qui per apprendere. Quindi se mi viene a parlare di sistemi di pirateria, io posso fare delle analisi sociologiche sul fenomeno della pirateria, se vogliamo. Però se mi non scendiamo nel tecnico da parte mia, intendo, perché... Io non saprei da dove cominciare. Penso che lo storico quotato sia Roberto e penso anche voi. Io non mi tiro dietro da questo punto di vista. Beh, allora diciamo che Roberto comincia con farci qualche esempio e poi dove ti seguiamo, dai. Sì, no, poi mi interessa anche il discorso sociologico, anche per magari il discorso abandonware, quindi secondo me Luigi può sicuramente dare qualche spunto interessante. Direi che io, quando il livello della serata si abbasserà, della puntata si abbasserà, no? Faccio entrare Marrone. Tac, la carta nascosta. Tac. Esatto. Confidate troppo, ragazzi, veramente. Vi consiglio di fare Luigi, stai tranquillo, che comunque stasera è quello che dirà più cose sarà Roberto. Quindi vai tranquillo, poi anche se la giochi proprio alla grande. Luigi, purtroppo, deve essere all'altezza della tua fama. No, dai. Sì, perché sennò praticamente potremmo causare un'ondata di suicidi non indifferente, quindi non mi sembra il caso di creare questa cosa. Quello che è. Esatto. Comunque su Orsù, cominciamo a fare una piccola storia dei primi tentativi di bloccare questa cosa cattiva che è la pirateria. Come si faceva nei primi tempi? Questo sicuramente, nel senso che fin da quasi subito la pirateria è stata vista un po' come il male assoluto su cui annegare i poveri utenti che compravano i giocatori. Che compravano i videogiochi, perdonatemi. No, ma era più bella se era che compravano i giocatori. Anche secondo me. Lasciamo. E diciamo che la cosa che mi interessa sottolineare in questo passaggio, che più che fare magari proprio un vero e proprio excursus storico, è quanto la fantasia degli sviluppatori sia peggiorata nel tempo. Nel senso che inizialmente tutti quelli che erano gli ostacoli che si volevano mettere ai giocatori per evitare che copiassero i prodotti software erano sostanzialmente fisici, ovvero la famosa ruota dei codici oppure degli oggetti particolari nelle avventure Infocom che ti servivano necessariamente per poter proseguire l'avventura, dei particolari manuali in cui ti chiedevano prendi il manuale, copia la terza frase nella quinta riga della sesta lettera, eccetera eccetera. Quindi diciamo che ci si basava di più sul fatto che si confidava che chi avesse il gioco avesse anche tutta la proprietà fisica di quello che ci stava intorno. Questo tralasciando tutto un ampio passato. Era anche, erano anche più divertenti, insomma. Da collezionare, anche infatti adesso sono sistemi. Infatti. Erano cose particolari, quelle che adesso sono le edizioni limitate, una volta erano lo standard, appunto per prevenire la copia. Dicevo, tralasciando tutto quello che è il discorso italiano, dove per un ampio periodo tutto il discorso pirateria praticamente non esisteva, era legalizzata e si copiava di tutto, tanto è vero che si vendevano anche giochi copiati in maniera legale nelle edicole, in barba a qualsiasi diritto di copia, in barba a qualsiasi proprietà intellettuale. Quindi l'Italia come sempre ha avuto un suo percorso, diciamo, personale, un'interpretazione personale di quella che era la legge, mettiamola così. Diciamo che col tempo però si è visto che il manuale, ad esempio, si poteva fotocopiare, con il passaparola si evitava il discorso degli oggetti e soprattutto questi oggetti iniziavano a costare, eccetera eccetera eccetera. Quindi si è arrivato a creare delle protezioni via software, protezioni che se prima erano il codice attivazione oppure erano, non lo so, per semplicemente l'impossibilità di copiare il CD perché dava un qualsiasi tipo di errore, col tempo sono diventate sempre più invasive e sempre più limitanti anche per chi poi il videogioco sostanzialmente l'ha comprato. Quindi diciamo che, salvo rari casi, mi viene a pensare ad esempio a un gioco di arte matica, Martin Mister, dove il sistema anticopia era praticamente nella copertina del DVD case all'interno di un oggetto da recuperare per poter proseguire l'avventura. Cioè, tolti rari casi, appunto, ormai tutto quello che per fermare la pirateria è stato spostato a livello digitale, quindi con diverse ripercussioni. Dal mio punto di vista si è perso molto anche nella bellezza dell'oggetto fisico, questo sì, quindi diventato sempre una lotta più becera, se passiamo il termine. Il gioco usciva fuori dal gioco stesso, praticamente. Videogioco. È diventato un meta videogioco, bravo. Andava poi a toccare. Era una sorta di realtà aumentata, quasi. Gioco, cioè la realtà entrava nel gioco, una cosa molto simpatica. Invece adesso, prima ancora di Kojima, pensa a te come erano avanti. Vabbè, andiamo. Quindi praticamente adesso siamo passati dai tentativi di arginare la pirateria attraverso degli scamotage anche divertenti, simpatici. Siamo arrivati praticamente al software che protegge il software e può anche creare però problemi, insomma, più o meno. So, Alex, tu hai qualche ricordo in particolare? Ma una leggenda urbana dei tempi dei primi floppy, quelli da 5 e un quarto, cioè la seconda generazione di floppy, quella da 5 e un quarto, diceva che se tu praticamente rigavi il floppy e a questo punto scrivevi il programma e sapevi, e leggendo il floppy sapevi quali erano i settori danneggiati, praticamente hardcoded nel programma lo compilavi facendo sì che appunto andasse a cercare i settori, e se questi settori erano danneggiati allora era la versione originale. Questa era una delle poche cose che mi ricordo che aveva un non so che di fisico, per cui fondamentalmente tu prendevi il floppy vergine, ci tiravi proprio una chiavata con la chiave, zac, e finivi per avere l'oggetto rovinato, però dato che era una copia praticamente unica dell'oggetto rovinato, perché era rovinato quello fisicamente, si poteva fare una cosa del genere. Però anche questi poi sono venuti fuori sistemi anticopie dove la gente bypassava queste letture, per cui chi se ne frega. Oppure già con l'Amiga mi ricordo che venivano fatte delle copie settore per settore, per cui se un settore era danneggiato veniva scritto un settore danneggiato. Xcopy, mi ricordo il programma, no, ricordo male. Sì, io mi ricordo uno programma di copia che, Xcopy, sì, che praticamente ti permette di giocare a Tetris intanto che copiavi, che secondo me era la fine del mondo, perché qui copiare i dischi era una tour di palle. Perché sì, bene, sì, ogni tanto ho copiato qualche disco pure io. Però era divertentissimo aspettare intanto che giocavi a Tetris. Tanto sono robe che sono successe più di 20 anni fa. E noi sappiamo che in questo paese c'è un accanimento della magistratura nei confronti dei pirati. Ma io mi ricordo, esatto, che quando i miei amici copiavano i videogiochi e io per caso ero lì. Che uomo di merda che sei, Bertone. Sei veramente un uomo di merda. Comunque, con l'amicizia, però. Sì, sì, ma proprio con amore. Quando i miei amici copiavano i videogiochi e io casualmente passavo lì e anche se non volevo vedere, mi capitava di. Mi costretto. Mi cadeva l'occhio sul monitor, ecco. Ho appunto questo ricordo di Xcopy che era bellissimo, che sembrava di essere dentro Matrix con settore per settore, gli 0 e gli 1 che venivano copiati e spesso poi si incriccava tutto alla fine e buttava via un dischetto. È bello che a lui sembrava di stare dentro Matrix prima ancora che Matrix uscisse, è quella la cosa bella. Era avanti quell'uomo, soprattutto avanti, no, gli amici, ragazzi, di Bertoni erano veramente avanti. Era avanti. E realtà aumentata anche quella, capito? Quindi sì. Sto pensando che Microsoft è stata una delle prime a implementare l'attivazione digitale sui propri programmi, praticamente. Cioè, praticamente cosa ha fatto Microsoft? Ripeto, fonte Wiki, l'immancabile. Faceva attivare i software praticamente dei suoi prodotti. Il primo fu Microsoft Reader. Quando acquistavi un ebook, praticamente venivano protetti dalla copia non autorizzata con la connessione, quindi tramite internet, e il server che riceveva informazioni prendeva sia il dispositivo, identificava sia il dispositivo che il file, quindi se tu avevi acquistato il prodotto la lettura iniziava, altrimenti bloccata. E poi questo è stato implementato in Windows XP, Office XP e tutto quello che conosciamo con i famosi 25 caratteri alfanumerici che inseriamo quando compriamo, perché lo compriamo tutti, vero? Io no, perché uso Mac. I miei amici lo compro. Ecco. I miei amici lo comprano, va bene. E sto pensando che si è arrivati a dei livelli, se ricordate, nel 2007-2008, ma penso anche oggi siano in vigore, in cui se veniva modificata la console di Microsoft, la Xbox 360, c'era un blocco praticamente della console stessa, all'interno del lettore, quindi non so se del firmware del lettore o altro, che non ti permetteva più di giocare con i giochi piratati, la bloccava, non potevi andare più online. Sì. E fu una protezione forte, mi ricordo, al tempo, e molti amici che conoscevo che giocavano a sbafo e se ne vantavano pure, mi ricordo a Gears of War, quindi parlo del 2007. Ma io ci ho copiato, fino a quando si sono trovati tutti quanti bannati, proprio per questa connessione online. E fu una cosa abbastanza tosta, perché ti costringeva ad acquistare un'altra console se volevi tornare online, ovviamente. Questo, insomma, mi ricordo, fu una forma di prevenzione, di disabilitazione delle funzionalità online, che fu forte, fu recepita dalla massa in modo abbastanza forte. Beh, io ricordo anche che poi, all'aggiunta di questo, Bill Gates andava a urinare sulle porte di questi giocatori in segno di spregio. Proprio lui, Bill Gates. Sì, sì, sempre lui o no, un parente qualsiasi. Non sui cancelli, sulle porte. Sulle porte. Suonava anche per le porte. Sì, sì, sempre urinando, senza usare le mani. Pisciava, esatto, mentre prima la porta li pisciava anche addosso. Però queste sono leggende urbane che cosa sono vere. No, sul discorso console mi viene in mente anche un'altra cosa, nel senso che al di là effettivamente di quello che è il discorso software, uno dei problemi grossi in alcune console è la region lock, ovvero l'impossibilità di utilizzare giochi comprati in altre regioni sulla propria console. Per intenderci, un gioco comprato in Giappone sulla tua console in Europa non funziona. Questo cosa comporta? Che per poter sbloccare, passatemi il termine, questa possibilità, era necessario modificare la propria console alla stregua di come veniva utilizzata per piratare. Quindi quello non era però non era tanto una pirateria, quello perché cosa veniva fatto? Il blocco regionale a cosa serve? Per impedire che giochi che escono prima da una parte vadano importati in un'altra zona dove dovranno arrivare dopo qualche mese. Quello è anche per un discorso di penso, adesso non vorrei sbagliare, è un discorso di prezzi, nel senso che spesso io ho utilizzato ad esempio il cambio un e euro. Quindi sono sozzoni. sono sozzoni, a me non mi sta bene questa cosa. Quindi insomma per una sorta di speculazione, quindi diciamo fortunatamente per incrementare la speculazione sui prezzi. Ma e poi ripeto, posso aggiungere, questo ha un parallelo anche con il mercato dei DVD e dei Blu-ray. Sì, sì, infatti. Il fatto è che per qualche motivo che a me è ancora ignoto, forse è noto e forse perché molta gente fa finta di non vedere, non si è ancora riusciti ad arrivare a pensare al mondo come se fosse un oggetto unico, ma cioè un mondo globale. Invece si pensa sempre di vedere il mondo come un insieme di tante piccole fazioni, il che va bene perché per certi versi, però a questo punto dovrebbe andare bene per tutto, perché è ovvio, cioè ci piace la localizzazione, la globalizzazione quando possiamo far produrre dei palloni in Vietnam sfruttando i bambini, però non ci piace la localizzazione, la globalizzazione quando invece dobbiamo importare delle merci che hanno dei diritti sopra. E c'è tutta una questione legale fondamentalmente. Per pagare qualcosa di meno ti dico sì, ok, va bene, parlo dei film, va bene anche per i giochi. Tu c'hai il diritto di usare sto coso, ma soltanto in UK e non anche in Spagna, perché poi le Spagne mi devi dare una mezza di più. E questa cosa qua genera un frastagliamento del mercato, ma perché non si vuole... forse perché ancora non conviene vedere il mondo nella sua totalità. Poi in realtà il mondo nella sua totalità se ne sbatte altamente, perché modi per copiare le robe, per trasferirle da una parte all'altra del pianeta ci sono sempre stati e ci saranno sempre, magari non al day one, però in breve tempo si riesce a la vita trova sempre una via, per cui la pirateria è lo stesso, nel senso domani esce PlayStation 4, dopodomani esce Xbox Antani, di cui vi ricordo che manderemo un bellissimo programma in diretta streaming in cui commenteremo il keynote dietro via videologica Antani, questo esatto. Dedicato apposta alla Xbox di nuova generazione. Però possiamo fare un piccolo inciso, secondo voi come si chiama la nuova Xbox? Infinite Fusion, come si è detto qualcuno, che già il nome sarebbe uno spettacolo. Secondo me Antani. Antani Durango. Non gli conviene Fusion, perché dopo tutti gli anelli rossi della morte delle altre Xbox, no, che fondevano, questo non, 360. Questo non c'erano gli anelli rossi, questo fonde proprio, si squaglia, implode. Esatto. Cominciamo bene, c'è Fusion, ok. Non è pubblicità ingannevole, ragazzi, cioè, ti ho promesso ciò che ti ho dato, cioè. Sì. Vabbè, poi vedremo il 21 in questa fantastica super diretta di dietrologia e siccome i nostri teleascoltatori sono delle persone cattive che andranno a seguire i podcast, altri podcast, siete tutti dei bruti. Questa cattiveria anche Marrone incita. Secondo me ci tradirà e andrà a seguire o andrà a parlare in altri podcast, ammettilo Luigi. No, l'ho già fatto tante volte, ma mi sono sempre pentito alla fine. Si torna sempre, quindi, al secondo amore. Quindi è deciso, il secondo amore non si scorda mai. Quindi è deciso di pentirti con noi quest'anno. Siamo contenti. Sì, sì. Bene, quest'anno con voi. Questo mese facciamo, dai. Ti pentirai con noi, perfetto. Tra pochi giorni, sì. Perché dipende da quando riusciamo a montare sta cosa. Non lo so, dipende dal paese. Dal paese. A me sta bene che mi dà tutte queste cose addosso alle spalle mie. Io ho da fare, ho una famiglia. PN, mica posso stagliare a DVL. Va bene, quindi andiamo avanti. Abbiamo visto come si faceva all'inizio, quindi che si cercava creativamente di bloccare la pirateria, e poi è stata un po' meno creativa perché questa lotta è diventata software contro software. Sono arrivati i DRM più invasivi. Quali sono i DRM? Qui a me un po' a memoria, per citarne qualcuno, per fare qualche esempio. Questi DRM più bastardi, io per esempio ricordo Star Force, non so se voi lo ricordate, che era su PC, che era praticamente un programmino che è simpatico, che installava un rootkit sulla, ma di nascosto senza dirlo a nessuno, praticamente doveva impedire la pirateria e la copia in questo modo, cioè lui praticamente faceva in modo di riconoscere tre virgolette, molto semplificatamente lo dico perché è un po' complicata pure per me riuscire a capire certe cose, quindi figuriamoci a spiegarle. Impediva che il disco copia potesse essere avviato come disco originale, ovviamente fondamentalmente era questa la situazione. Però questo rootkit programmino che agiva in sottofondo, che stava sempre lì, nessuno sapeva che veniva installato, quindi neanche che doveva essere rimosso, poteva incasinare un pochino i processi, gli altri processi in corso, quindi appesantire la memoria del Windows, che sappiamo è facile da appesantire, e quindi ci furono tante bestemmie. E mi sembra che Star Fox poi durò come protezione 2-3 mesi, forse è resistito 2-3 mesi, è stato abbastanza tenace, ma poi comunque è stato bucato proprio alla fine. Neanche Star Fox doveva essere la protezione definitiva, adesso mi sa che viene ancora utilizzato. Poi c'erano, sembra, anche ce ne sono tanti, anche i vari Securom che andavano in conflitto con gli emulatori, però il problema è che andavano in conflitto con gli emulatori a prescindere, quindi col fatto che tu stessi montando una ISO, un'immagine di un gioco o una tua personale di qualsiasi altro tipo, tu diceva c'è un emulatore, fottiti, devi disinstallare l'emulatore per dire, per poter giocare a un gioco originale, non una copia, per giocare. E quindi bello, era molto simpatico. Poi ce ne sono anche altri, non so, Roberto, te ne vengono in mente qualcuna, tu che sei erudito di RM? No, diciamo che mi ricordo, appunto, c'è SafeDisk, forse, se ricordo bene, che è un altro di questi programmi. E aggiungo solo il fatto che, al di là di quello che erano i problemi effettivamente che potevano dare al computer rallentandolo e prendendo l'applicazione di altri programmi, ricordo però questo, non so dirti se è una leggenda metropolitana o meno, che dava problemi anche su alcuni lettori CD che si fondevano praticamente, che andavano in botta quando avevano a che fare con questo tipo di applicazione. Se non sbaglio della LG, adesso io questo ricordo perché mi ricordo che ero abbastanza preoccupato del fatto che io ho un lettore CD LG e quindi, pur avendo il gioco originale, temevo che saltassi i tuoi amici però venissero dal tuo a giocare con il tuo computer. E beh, può succedere. Sì, i miei amici venivano, lo passavano. Sì, possiamo giocare con il tuo computer. E non erano molto simpatici questi miei amici. Però inizialmente, nel senso che effettivamente fornivano una protezione abbastanza alta. Adesso utilizzo fonte wiki e anche memoria. Splinter Cell, che è stato il primo, se non sbaglio, con Star Force, per quasi un anno. Splinter Cell, no. Splinter Cell era più vecchio di forse qualche un episodio, il primo Splinter Cell chiaramente, il secondo o il terzo, se non mi ricordo con precisione, dopo se volete vado a controllare quello che fu. E per quasi un anno non venne, o per più di un anno non venne copiato, quindi potete capire che effettivamente rispetto alle famose fotocopie non mi risulta, però va bene. Ma tu, la storia è fatta per essere riscritta come racconta Da Vinci. I tuoi amici che dicevano guarda, per un anno non ci abbiamo giocato proprio. Infatti per un anno non li ho visti a casa mia. Poi a un certo punto questi amici ti portavano anche le schede del satellite col cippettino sopra. Sì, mi ricordo di aver visto anche questo. Madonna santa. Mentre veniva pestato, perché lui voleva correre dai carabinieri, veniva pestato per tenere la bocca chiusa. Quindi praticamente sì, ci sono tutti questi sistemi che poi alla fine qualche problemino lo danno, insomma, cioè non è che sono tutti quanti proprio innanzitutto sicuri, perché poi alla fine come abbiamo visto dagli e dagli alla fine vengono bucati senza pietà. Il problema è che molte volte danno dei problemi, fanno da bestia nera proprio ai giocatori, che invece vanno lì, vanno al rivenditore e si scaricano in digital download su Steam o su qualche altra parte il proprio giochino, se lo vanno a installare e magari non gli parte. Tutto di RM che in quel momento ha deciso che non può. Come per esempio, che ne so, con quello che utilizzava Ubisoft con Assassin's Creed Crystal, come si chiama? no, il 2 mi sembra. Qual era? Il 2 o il 3? Vabbè, chi se ne frega, un Assassin's Creed. È una delle tante serie che veramente richiedeva la connessione permanente, perché i salvataggi venivano fatti online. Quindi c'era questo in the cloud. In the cloud. E quindi giustamente tutti quanti che sono andati lì a comprarselo al day one se lo so installare, se lo so andare a giocare, e non salvava, perché server andavano a picco, poi arrivavano i vari pirati che facevano attacchi DOS ai server e li facevano andare in crash. La gente che bestemmiava, ovviamente, come scimmie urlanti. E poi ricordiamo che nonostante le grandi resistenze delle masse, ogni tanto su internet qualcuno si lascia andare a qualche piccolo ci picchia, ma forse questa cosa non sarebbe dovuta succedere, è software house, dai, la prossima volta cerca di fare meglio, giusto? Questo è il tono che si usa su internet, più o meno, sì. Ok. E poi mandano anche i biscottini in omaggio per ringraziarli del fatto che comunque hanno creato un gioco così bello, sì. Sì. Questo è quello che faccio di solito, i miei amici non lo so cosa fanno. Okay, però. I tuoi amici probabilmente vanno in parrocchia a confessarsi. Ma i biscottini puoi mangiare solo se sei connesso online comunque. Chiaro. Non puoi mangiarli così. Sì, sì, devi fare un video, sei online e puoi mangiare, altrimenti poi violi i diritti se li mangi offline. Loro controllano dentro il cartone di biscotti e là sei costretto, poi ti bloccano i biscotti per un anno, bloccano la digestione per diversi giorni anche. Sì, e là sono cavoli, che brutti. Comunque poi è una protezione completamente inutile, perché poi fu bypassata da un sistema di fittizi che facevano credere al computer che stava salvando offline, cioè offline. Insomma, praticamente alla fine chi ci giocava pirata giocava perfettamente il gioco, poteva finire, e mentre chi giocava online aveva problemi qualche volta con i salvataggi, tant'è che molti che avevano un gioco online, quando poi uscì il crack, si installarono poi il crack perché per poter giocare al gioco originale senza problemi. Quindi poi alla fine diciamo che per ora tutti quanti i sistemi sono stati più o meno bucati facilmente. Il problema poi bucano qua. Il problema fondamentale poi è che molte case ovviamente vanno a tutte le case vanno a cercare di limitare la pirateria della prima ora, cioè quelli la pirateria che esce dall'hype, cioè quelli che sono proprio avvelenati, che devono avere il gioco primo giorno, ancora prima del primo giorno, che stanno lì sui torrent, sui file sharing, cercando di trovare il gioco ancora prima e poterci giocare prima dell'amichetto di scuola, e che sono quelli che secondo voi le software house fanno più danni, perché sono quelli che vanno a rubare i miglioni proprio all'inizio della commercializzazione del gioco. Poi c'è qualcuno che vuole aggiungere, allargare questa pagina, se no ne parliamo più tardi. No, io vorrei fare un passo indietro sul discorso, visto che hai agganciato Assassin's Creed sempre online, adesso sempre per dare un attimo uno sguardo storico, che la pirateria, se vogliamo, ha avuto anche il lato positivo di permettere di inventare qualcosa di interessante. Adesso spero sempre qua anche di non peccare di memoria fallace, ma parlando di Half-Life 2, è una delle, diciamo, le introduzioni più importanti che ha avuto è stata quella di introdurre Steam all'interno di tutte le case, nel senso che Steam, uno dei motivi per cui è nato era per fornire un sistema anticopia resistente, visto che richiedeva appunto una validazione online per verificare che tu avessi una copia originale, cosa che pure qui funziona così praticamente, cioè tu accendevi Steam, se accendeva la webcam, tu devi mostrare il pack originale. Ce l'ho. E allora c'è facevano partire il gioco. Dall'altra parte del mondo c'era un indiano con yes lo or sai no. Che questa probabilmente è l'unica funzione che c'è, una cosa che funzionerebbe, penso. Sì, ma se uno si stampa con una lo apri, fai vedere tutto, insomma. Fai una serigrafia, guarda che non ci vuole un cazzo, dai. Andai. Cioè, viene in mente persino a me come fregare sta roba. Cioè, si chiama mock-up. Devi fare tutta la realtà alternativa, pure lì non aumentata, realtà alternativa. Fai. Sì, praticamente c'è gli amici di Bertoni che simulano in 3D la stanza di Bertoni con la faccia di Bertoni ricreata in tempo reale. E il gioco vero, giustamente. Bip, bip, bip. Questo era lo scanner ottico del mio avvocato che sta cercando di capire chi siete. Ma che cazzo è il tuo avvocato, Bertoni? Ghedini, è Ghedini. Ma poi funziona questo sistema Steam? Perché bisogna, quello che io so, no. Cioè, alla fine, oggi giorno hanno fottuto pure quello. Allora passiamo due considerazioni al volo, magari le butto lì. La prima, che se sempre riguardo Half-Life 2, praticamente il codice sorgente, il gioco, venne diffuso prima dell'uscita effettiva del gioco, quindi già potete capire che in qualche modo è arrivato zoppo. La seconda cosa è che Steam funziona nel momento in cui, poi, allargandosi come piattaforma di vendita, ha reso i prezzi talmente competitivi che lo sbatti di essere pirati ha perso probabilmente uno dei motivi fondanti. Poi c'è sempre il discorso che i giochi comunque costano tanto, non ci sono i soldi, è più comodo, più bello, eccetera eccetera. È sempre, però, il problema della prima ora, no? Poi alla fine, perché molti poi di quelli che magari se lo giocano all'inizio, poi magari non è detto che non se lo comprino dopo. Chiaro. Quando ci sono le super offerte, diciamo che appunto una delle, cioè il discorso prima ora è importante, visto che per la maggior parte dei titoli, soprattutto quelli con un potenziale di vendita all'uscita molto alto, il fatto che di vedere il gioco già piratato addirittura prima dell'uscita, spesso, o subito poco dopo, diciamo che dà una mazzata non indifferente alle vendite. È anche vero che tutti i soldi spesi per la pirateria, se venissero, per combattere la pirateria, se venissero risparmiati, probabilmente permetterebbero anche un prezzo minore. Un po', se vogliamo, visto che piacciono i discorsi politici ad Alex, è un po' il discorso delle tasse: se tutti le pagassero, probabilmente potrebbero essere più basse. Però sempre un probabilmente potrebbero, non. Mamma mia, io mi dissocio da Roberto Bertoni. Sta dicendo delle cose fondamentalmente sì, no, vere, sempre era in una, sempre in una realtà alternativa. Però. Era l'aggiunta del probabilmente che mi ha un po' fatto accaponare la pelle. Ma siamo sicuri che è veramente così? Queste sono domande che faccio ai sociologi ivi presenti. Cioè, io personalmente, se fossi uno che produce contenuti, uh-huh. Ok, diciamo che ho un contenuto, il gioco X, che ne so, il prossimo GTA 5, va bene? Tanto per parlare di una cosa. Sì. Ok, quello è un gioco che venderà, cos'è? 10 milioni di copie, giusto? No, ne dubito, però sì. No, di più. No, di meno penso. Non lo so, vabbè, perché io francamente non ho dati di vendita. Ma chi se ne frega, ok. 10 però qua milioni se vendono 3, 4, 5 milioni già si fanno le seghe, quindi penso che comunque... Vabbè, però è GTA 5, dai. Allora, 10 milioni di copie e su ogni copia alla fine quanti ci guadagnano? 20 euro? Lo sai che non lo so. Stiamo parlando di PC o console? Tutto insieme. No, perché console c'è anche la fregatura tipo 360 e PlayStation 3 che devi pagarci sopra i diritti a... No, ma infatti dicevo, quello che ci guadagni, non quello che... Perché è ovvio che al day one un gioco costa 70 euro, però mediamente, alla fin fine, con tutti gli sconti, i ribassi, cioè quanto ci guadagna il produttore? Facciamo che guadagna 20 euro, no? Totale 200 milioni di euro. Ci sta come bilancio. Ora, se io sono il signor GTA 5 e dico 10 milioni di copie... è un certo numero di copie, non so neanche quanti sono volatili, perché o sono comprate non originali oppure sono, che ne so, proprio non comprate perché dice che cazzo me ne frega di comprare questo coso qua. Io se dicessi facciamo che il mio guadagno a copia è di 5 euro e invece di venderne 10 ne vendo 40, il guadagno sarebbe lo stesso, però la distribuzione sarebbe più ampia. Io punterei a quel tipo di approccio. Cioè, secondo me, appunto, quello che abbiamo detto fino adesso è che sarebbe una figata, e lo dico proprio con questi termini veramente maccheronici, che il sistema mercato riuscisse ad arrivare a un punto in cui i contenuti sono mediamente più accessibili, perché effettivamente in tutti i mercati, che sia quello dei telefilm, dei film, dei videogiochi, della musica, se tu dai a disposizione all'utente qualcosa che ha pagamento, per cui costa di più di quella piratata, ma che non è veramente uno sbatti zero rispetto al fatto di scaricarsi tonnellate di torrent che poi vanno lenti, che poi non funziona, che poi comunque la risoluzione non è la stessa, che poi non c'è, contro crack, virus, esatto. Spyware, cazzo imperi. Io ritorno su un aneddoto che quando ho vissuto questa cosa mi ha veramente colpito. 4 anni fa ero a Cannes al MIP TV, che è una sorta di meeting mondiale di compravendita dei diritti televisivi, cioè un posto strano, c'erano diverse conferenze, sono andato a questa conferenza, c'era questo guru della comunicazione e questo qua è venuto fuori. Ok ragazzi, chi di voi ha in tasca un player MP3 o un telefono, insomma qualcosa che fa sentire la musica? E tutti hanno alzato la mano ovviamente. Detto, mediamente ha detto il 93% di quello che sta su quei robi, non di voi ma della popolazione mondiale, il 93% di quello che sta su quei robi non è, cioè è copiato, non è originale. E tutti, oh porco zio, porco zio. Perché è tutta gente questa che produce contenuti. Cioè, gente che ha la Universal, la Warner, cioè gente che appunto ha sotto mano il mercato discografico. Cioè, oh cazzo, c'è cioè, cose che mi copiano. E lui dice, non dovete star lì a smadonnare su quel 93%, perché comunque ve lo inculeranno, sempre comunque. Voi dovete puntare a quel merdosissimo 7%, perché quello è il vostro mercato. Voi dovete fare in modo che quel 7% sia il valore per cui la gente vi acquista. Qui ci leghiamo molto alla puntata precedente, no, la puntata, scusami, quella delle scatole, dei videogiochi che rompono le scatole. Perché il fatto che se tu riesci a trasmettere il giusto equilibrio tra costo e valore di un bene, a questo punto la gente te lo compra, punto, senza tanti cazzi. Cioè, a me, io sono veramente terrorizzato quando vedo il bimbo minchia che al day one si compra un gioco da 70 euro. Perché io penso quanto io ci metto a guadagnare 70 euro e quanto il padre di questo bimbo minchia ci mette a guadagnare 70 euro. E questo tempo, queste risorse, questo sbatto... Chissà quanto ci mette la madre a guadagnare. Vabbè, ma madre ci mette di meno, però vabbè. E la madre dei bimbi minchia è sempre cita, cioè nel senso, e secondo me era botta, sai come. In certi casi, cioè in alcuni casi veramente veramente particolari, ma credo che se un gioco all'anno può valere questa cifra, perché un'esperienza all'anno può valere quella cifra. Però cazzo, cioè non puoi pensare che qualsiasi gioco, qualsiasi merda che tu tiri fuori, almeno il primo giorno abbia quel valore. No. E soprattutto che dopo due settimane questo valore si dimezzi. Cioè vuol dire che tu stesso sei conscio del fatto che il tuo oggetto ha un valore molto inferiore del costo a cui lo mandi fuori. Cioè non esiste che in due settimane questa cosa si deprezzi così tanto. No, questa è la mia cioè, lancia spezzata. Sono un po' più di due settimane, però sì. Sì, vabbè, ma è un modo di dire, dai, non prendermi lì, cioè io non capisco una sega dei videogiochi, no. Dai, per cui... No, comunque, stavo pensando una cosa, effettivamente è un discorso che andrebbe rivisto dal punto di vista anche dell'identità del prodotto videogioco piazzato sul mercato, perché un abbassamento di prezzo di un bene di lusso come il videogioco, che tu trovi a 20 euro dopo, in meno dopo un mese, e magari fai un giro in un centro commerciale, per dirne una, dove ci sono due negozi, uno specializzato e una catena, diciamo, tipo un Media World, quindi una catena di elettronica, che vendono videogiochi, e vedi una differenza di prezzo: una parte costa 20 euro di meno, l'altra invece ha un prezzo pieno sui 70, per dire, ti rendi già conto che praticamente la differenza di 20 euro per lo stesso prodotto a distanza di 15-20 metri è un qualcosa, un euro al metro. Sì, un euro a metro. Non si verifica per gli altri, solitamente per i prodotti piazzati sul mercato, che può essere un detersivo, una lavatrice, faccio discorsi di questo tipo. Perché questo? Perché non c'è una regolamentazione per quanto riguarda i prezzi. Una volta passati alla distribuzione, ognuno può fare il prezzo che vuole, promozioni che vuole, eccetera. Sì, è vero che diventa un mercato nel mercato, di stare attento a cercare, vedere dove c'è l'offerta, quindi diventa proprio un'avventura. Però è pure vero che dai un'immagine del videogioco che è completamente sballata a livello rapporto prodotto prezzo. Non riesce ad avere un'identità precisa su quanto dovrebbero costare questi cavoli di videogiochi. Ecco, e quindi questa facilità con cui il range va a toccare diverse punte, diversi estremi, secondo me è nocivo per il videogioco stesso, perché non gli permette di avere un'identità precisa, una percezione collettiva precisa. È vero. Poi la gente quelli che sono del settore si lamentano che il videogioco non viene percepito come una forma di espressione, tra virgolette, artistica. Ripeto, sto camminando sulle uova con i tacchi. Però è ovvio che se tu lo tratti così, come se veramente fosse le pesche che il giorno dopo non sono più fresche, le devi dimezzare, cioè... È ovvio che non. Sì. Posso capire che una pesca sia molto buona, ma non puoi dire che quella pesca è un'espressione artistica, anche perché la fa l'albero. Cioè. Certo. Questo non vuole andare a dire, ovviamente, che in tutto il discorso della pirateria, per avvicinarci al discorso al tema della puntata, ovviamente questa percezione del videogioco, poi a prescindere dal prezzo. Io non sono mai d'accordo su qualcuno che dice non posso permettermi videogiochi, quindi li vado a piratare o altro. Tu aspetti che il videogioco cali di prezzo fino a quando te lo puoi permettere, secondo me, e poi compri il videogioco, o al limite non compri tutto quello che passa il convento, ma compri soltanto attraverso delle decisioni mirate, precise, eccetera, dei videogiochi in particolare. A parte questo, per attaccarmi adesso al discorso del piazzamento del videogioco, della percezione del videogioco sul mercato, non esistono nemmeno delle tassonomie precise che ci permettono di identificare un videogioco da un altro. Vengono messi su degli scaffali senza una precisa titolazione o una divisione di genere. Una piccola divisione la fanno per esempio le librerie fantasy, fantascienza contemporanea, per dire, o i film horror, drammatico. I videogiochi no. Super Mario può convivere con Super Metroid perché c'è la stessa nomenclatura data dall'ordine alfabetico, ma sono cose che non seccano nulla. Quindi la percezione sia del videogioco, oltre al prezzo, è anche, se vogliamo, tagliata fuori da tutti i fattori che dovrebbero ben identificarlo il videogioco, e questo contribuisce a farlo credere come un prodotto di massa che vabbè, tanto sta là, tanto serve per divertirsi e via discorrendo. Questa è un'altra delle cose. Hai assolutamente ragione quello che hai detto. Questo mi ha fatto pensare appunto al paragone con la libreria e con la videoteca, tra l'altro posti che comunque non hanno più tanto, cioè stanno fallendo quasi tutte le librerie, quasi tutte le videoteche, anzi no, tutte le videoteche, quasi tutte le librerie. Cioè il fatto che comunque il videogioco comunque non viene trattato neanche da chi ci lavora come un oggetto dell'ingegno, di espressione, se non artistica perlomeno emotiva. Però io credo che, perché tu vai appunto a GameStop e trovi, cioè, tutte accatastati un po' a cazzo, dove tu devi andare lì a scatabellare eccetera eccetera. Non c'è ovviamente il rapporto che hai, nel senso, vai dal negoziante: senti, a me piace questo gioco di gioco, cosa mi consiglieresti? No, cioè lì c'è il lobotomizzato, cioè l'ex bimbo minchia che a furia di è diventato il lobotomizzato che sta da GameStop. Io ho lavorato a GameStop. Sì. Mi spiace. Tu sei l'eccezione che conferma ogni regola. Poi come ne sei uscito? Scusa? Come ne sei uscito? Per la porta principale o dal retro? No, quando ho la vocazione mi ha chiamato per altri compiti, altre strade. Bertoni, devi fare i podcast. Sto pensando d'altro che nei GameStop, per esempio, c'è questo aspetto qui, ma così come anche in altre catene, dove c'è il mercato dell'usato, sempre per la percezione del videogioco che si ha. Non c'è una distinzione fra usato e usato, cioè perché a me dovresti far valere, se mi va bene, la mia copia usata 20 euro, ripeto, se mi va bene 20 euro, uguale alla copia di un altro che porta invece una scatola graffiata, rotta, o un CD messo male, eccetera. Cioè, ma io credo che al tuo GameStop le tue copie sono con la placca di argento, cioè ex copia di Luigi Marrone, cioè la gente va lì in adorazione tipo la Mecca. Sì, ma non le vendono, dico, io assolutamente, cioè le prendono, non le stanno tengono lì, hanno paura perché temono che costi di più, allora le lasciano lì, prendono quelle più scrause. No, ma cioè, quello che dico è che questo contribuisce sempre a una percezione del videogioco completamente sballata. Non c'è il valore dato all'usato, non c'è il valore dato alla copia in sé fisica. Cioè, non puoi farmi valere tutte le stesso tipo di copie, a volte anche senza manuale o altro, come se fosse tutta una grande famiglia identificata solo da quel titolo. C'ha quel nome per cui vale tanto. Cioè, stiamo su un livello proprio di contrattazione di mercato che depaupera la qualità intrinseca del videogioco, della percezione del videogioco. E questo è un altro, secondo me, tassello che contribuisce la gente a dire: vabbè, ma soltanto videogiochi, che cazzo me ne frega, posso stare a spendere 30 euro, uno scarico, ci gioco, chi si è visto. Anzi, se poi si viene a sapere che gioco, pensano che io metto le bombe. Sì. Affrontiamo il discorso sociologico? Siamo qua in attesa, sì, cioè della placca d'argento, vai. Allora, solo una cosa, io mi ero segnato una cosa per questo discorso, perché ho avuto un confronto con un mio amico qualche tempo fa. Uno di quelli anche di Bertoni? Non lo so, tu Roberto hai amici stronzi? Io no, tutti amici, grandissime persone, integerrime. Ok, allora non è amico comune, solo amico mio, io la maggior parte sono stronzi. No, a parte gli scherzi, questo mio amico, praticamente abbiamo fatto un discorso. Allora, lui è la classica persona praticamente che cambia giudizio a volo, in modo da poter non perdere posizione quando sta affrontando un discorso in cui è troppo scoperto, oppure sta perdendo palesemente la ragione. Questo mica stavo parlando di fondamentalmente di produttore di arte. Lui c'ha una concezione dell'artista abbastanza non carina per l'artista stesso, mentre dice che fondamentalmente l'arte è una cosa accessoria, si potrebbe fare a meno di vivere di romanzi, videogiochi, film e tutto il resto. Conta solo il lavoro, la prima cosa, quanto porti a casa, il reddito, persona triste, quanto. Lui è così, comunque gode dell'arte, si scarica i CD, i videogiochi, le console truccate, tutto quanto, i film e via discorrendo. Non solo, dice praticamente che l'arte dovrebbe essere di tutti, appartenere a tutti, perché una volta che l'artista ha creato un prodotto, quello fa parte dell'umanità, cioè non ci puoi mettere su un prezzo altro, al limite l'artista te lo può regalare se conosce qualcuno eccetera, ma quello dovrebbe essere di tutti. E qui è entrato il discorso, lui che ha sempre lavorato in azienda, sempre stato insomma impegnato da molti anni a questa parte a ricevere stipendi regolari e a non crucciarsi mai della propria creatività. Gli ho detto: scusa, ma come campa un artista? Cioè il sudore che ci mette fuori quando va a creare, e lui è quasi inalberato. Ma che sudore? Ma che sudore vuole cacciare un artista? Cioè, alla fine aveva quest'idea veramente che non si sforza, gli artisti non si sforzano, non lavorano fondamentalmente, e soprattutto non devono credersi arrivati gli artisti quando decidono di essere artisti o si scoprono con un po' di talento. Questo è tutto il suo discorso. Alla fine gli ho domandato: ma fammi capire una cosa, nella tua azienda fondamentalmente, visto che tu comunque ne godi di tutti i prodotti che un artista X crea, film, scarichi quello, come te l'ascolti una canzone, come ti piace giocare a videogiochi, scaricati e tutto, se facessi la stessa cosa con l'azienda tua, cioè nel senso venissi a rubare i prodotti della tua azienda o distribuiti gratuitamente e tu perdessi poi il posto, perché ovviamente non essendo centrate fanno tagli a personale, che diresti a quel punto lì? Allora lui mi ha detto, questa è stata la giustificazione per arrivare al succo del discorso sulla pirateria, e che fondamentalmente mi fa nascere anche la maggior parte della sfiducia verso gli esseri umani riguardo la vita, i rapporti interpersonali e altro. E ha detto: io aspetto sempre un po' prima di scaricare, non lo faccio mai subito quando esce un prodotto, perché aspetto sempre che l'artista ci abbia guadagnato dopo un tot di tempo, e a quell'ora posso scaricare direttamente, perché non merita che continui. Fatto, punto. Allora gli ho domandato: ma perché tu conosci quanto guadagna un artista? Sai quanto praticamente un musicista ha guadagnato con tot disco, le royalties, le percentuali, e quindi decidi: ah, ok, adesso a partire da questo giorno posso scaricare perché lui ha già guadagnato abbastanza su quello che ha prodotto. Cos'è? È un'azienda l'arte, la vedi in maniera aziendalistica, cioè il tipo tot produzione, tot guadagno e stop, cioè così la vedi, come la tua azienda, una creazione, un artefatto artistico. Siamo stati a tergiversare su questa cosa qui, e poi alla fine gli ho fatto una domanda, gli ho detto: ma quindi fammi capire, io che compro originale, noi che qui in questa sede di Trilogia Videoludica compriamo originale, cosa facciamo? Foraggiamo quindi l'artista in modo che tu dopo qualche tempo possa goderne gratis perché stai con la coscienza a posto? E lui mi ha fatto: sì, fondamentalmente è così. Da lì ho capito che questo tipo di amici, che ti posso dire, o li spari totalmente, sì, li spari alle gambe. No, ma per dirti dove può arrivare il livello di autogiustificazione per non ammettere che si è palesemente nel torto marcio riguardo ai rapporti di produttività che si creano in un mercato in cui viene piazzato un artefatto artistico. E ti assicuro, questo qua l'ho esasperato. Esattamente quello è il discorso che abbiamo fatto, ma ci sono moltissimi che per giustificarsi ciò che godono illegittimamente arrivano a pensare, arrivano a mettere in relazione per poter dire: io non ne ho colpa, io non c'entro nulla, non mi riguarda come discorso e via discorso. Tutto qua, questa era la mia il mio contributo alla disdicevole arte dei bucanieri. Sì, considera che, allacciandomi un po' a quello che dicevi anche tu, è proprio diversa la percezione, nel senso che se tu sei al supermercato e rubi una mela, hai una percezione completamente diversa di sono a casa e mi scarico un film, perché non vedi probabilmente l'oggetto fisico che stai, passato il termine, rubando o meno. È come se tu vai al GameStop e rubi un videogioco, è la stessa medesima cosa che tu se a casa lo scarichi, ma implicitamente il peso che dai ad un'operazione invece che all'altra è chiaramente differente. Certo. Ma poi vedi, c'è questa idea che tu devi poter godere di quello che offre il mercato tutto. Dove sta scritto? Cioè, nel senso, dove è scritto che non dobbiamo educarci a un'etica del consumo consapevole, ragionato e soprattutto a livello, a dimensioni umane? Cioè, se io compro un gioco, per carità, ne posso comprare anche 100 e magari ne gioco 30, 40, ma li ho comprati, quindi ho il diritto di comprarli. Invece chi scarica, mostra questa avidità, da questa gratitudine, molte volte invece prova, provicchia, eccetera, tutto quanto, ma l'idea che deve poter giocare tutto, deve poter avere accesso a tutto. È questo che deve essere, secondo me, ridimensionata come realtà, ancor prima di come ce la presentano questa realtà. Quindi fa il discorso della mela. Prima di arrivare alla mela, facciamo un'etica del consumo su come viene gestito questo aspetto di mercato, su come ci si può approcciare. Io, quando scrivo su PlayStation Magazine, la maggior parte dei miei Deep Inside, la rubrica che curo, è basata proprio sulla percezione che si ha del videogioco, non tanto sulla qualità di un'opera in particolare X o Y, perché parte tutto da lì. Stavo pensando, in Francia hanno fatto, il governo francese, dei programmi educativi che possono essere fruiti normalmente da casa, dal PC, sono gratuiti, sull'utilizzo di Facebook, ma non come si utilizza Facebook, del tipo se premi questo pulsante fa una notifica, questo c'è un messaggio privato, no. Allora, simulazione, se tu vai a una festa e fai una foto a questo ragazzo che dà un bacio a questa ragazza, lo pubblichi su Facebook, e non sai che questo ragazzo ha la ragazza invece che non è venuta a quella festa, e interpreta quel bacio sulla guancia a quell'altra come un possibile tradimento, lo sai che tu ti sei reso compartecipe di una sorta di, come si può dire, di equivoco che va a creare scombussolamento nei rapporti interpersonali? Allora ti fa vedere questo tipo di relazione che si crea nell'uso dei social network, in quello che si dice, si scrive, si pubblica, in modo da educare un'etica dell'utilizzo, quindi del pensiero, quindi del consumo, quindi quello che cavolo vi pare. Questo manca, cioè manca questa etica qui. Qua in Italia abbiamo, che in Italia c'è una percentuale delle piraterie fra le più alte, non dimentichiamo questo dato, è in Europa. E qui in Italia manca proprio questa sorta di educazione al consumo e alla fruizione dei prodotti. Siamo degli sciacalli, siamo delle pedine impazzite che vogliono tutto, non vogliono rinunciare a nulla, e molte volte lo facciamo anche in modo scriteriato, senza un obiettivo preciso, una mira precisa, non quella di possedere. Posso interromperti, scusami? È interessante, prego, appunto, prego. Parlare che appunto il capo dei comunisti, cioè l'origine di tutto, come dice il buon Roberto Bertoni, che parole sue, i comunisti sono tutti ladri, e Karl Marx, insomma, ci ricordiamo di lui. Chi è il padre del capitalismo? Non ha un padre solo. Il capitalismo ti spinge come sistema sociale e, insomma, economico, al consumismo e al consumismo selvaggio. Cioè, nel senso, tu devi consumare, al punto tale che esiste una malattia chiamata dipendenza da shopping, che a me fa ridere questa cosa, però non è impossibile, cioè questo è in qualche modo un male sociale. Qualcuno ne conosco, Ne conosco pure io, shopping tecnologico, tra l'altro. Insomma, finisce che appunto l'utente non è l'ultimo anello della catena alimentare, è il penultimo, perché sopra l'utente c'è il suo fornitore, cioè il cliente sei tu, che però comunque sei allo stesso tempo vittima di chi ti fornisce questa grandissima quantità di contenuti. Ovvio che non sto parlando di una persona sola, ma di un sistema totale globale. La cosa che mi fa strano è che abbiamo cominciato questa puntata parlando di RM come una grande rottura di coglioni da parte di chi crea contenuti, e siamo arrivati a parlare invece di pirateria, nel senso di chi infrange questi diritti per accaparrarsi un bene di cui non ha diritto. Perché vengono prima questi, sì, qui. Secondo me le cose devono bilanciarsi, nel senso l'oggetto in sé, che sia un DVD, un videogioco, un film, un libro, un piatto di pasta, insomma, deve riuscire ad avere un livello di appetibilità, soprattutto nel piatto di pasta, tale per cui, non so, questo forse mi sto ripetendo e vi chiedo scusa, io non ho paura di chi scarica tonnellate e tonnellate di film o di videogiochi o di queste cose, perché fondamentalmente, secondo me, come dici anche tu, manco se li gode. Adesso stai mettendo su ovviamente una concezione, una percezione quantitativa della cosa. Magari se ne gode, magari come me, come te, però in maniera minore a livello quantitativo, cioè nel senso, molte altre volte cose le guarderà superficialmente, si sentirà più sicuro psicologicamente per averle quelle, sì, cose. Sì, sì, sì, capisco che poi uno si trova, dato che ognuno pensa di essere l'unità di misura del proprio universo, è ovvio che si dà delle giustificazioni. Certo. Cioè, sì, nel senso, faccio così perché tanto non l'avrei comunque comprato, non l'avrei comunque visto, bla bla bla bla bla bla bla bla. Oppure perché comunque poi lo comprerò, quello che mi piace, cioè del discorso inverso, no? E poi alla fine non compra. Io conosco un amico, tra l'altro, che fa proprio così, nel senso che veramente scarica, gioca e poi compra originale. Questo è un approccio interessante, ragazzi. Questo, cioè, secondo me è fantastico, e guadagno anche poco perché è un precario, comunque fa attività teatrale, saltuaria, non c'è un lavoro, soprattutto i 40. Un mio carissimo amico, però, cazzo, che quando vedo giocare lui ti fa venire voglia di giocare, dici guarda quanto l'ha apprezzato questo videogioco, guarda come ne sa parlare bene, rigioca 2 o 3 volte, e per vedere sulla sua ludoteca, nonostante sia più grande di me, avrà forse, non sto scherzando, ma una ventina di titoli massimo, perché lui sa, per esempio, che se gioca a Bioshock non ha bisogno di giocare a, forse ho usato un esempio sbagliato, dai, se gioca a Max Payne 3 magari non va a comprare Splinter Cell, per intenderci, perché a lui piace la caratterizzazione del personaggio di Max Payne, sa quindi che con Splinter Cell non troverà quello che trova in altri giochi. Perché questo? Perché ha una cultura del videogioco, ha un'educazione al consumo, ha anche delle strettezze economiche, per carità, però vuoi vedere che come sa giocare? Ecco, saper giocare, io metterei delle scuole sul saper giocare, che forse è l'attività più libera che ci sia, il gioco, eppure non si è educati, perché non funziona come una campana che disegni per terra, ci fai 5-6 salti o l'1-2-3 stella che tutti possono imparare. Il videogioco ha bisogno di un altro tipo di educazione, è un mondo in cui ti perdi all'interno, per cui prima di fare questo viaggio, se vogliamo, delocalizzato, che ti proietta fuori dal tuo corpo per entrare in una realtà virtuale, dovrebbe esserci un'anticamera educativa nella quale ti dice ok, stai facendo questo, ma quali sono i tuoi gusti, come possiamo fare per affinarli, dove ti vuoi orientare, che ti posso dire, quanto puoi spendere rispetto a quello che è uscito, si può aspettare, ta ta ta ta, eliminando, scremando tutti quelli che sono gli atteggiamenti completamente invece lasciati a sé, che nell'accessibilità della rete di internet poi vengono completamente esaltati in maniera abnorme, viziati. Io ho paura della rete molte volte. Sai, per fare un discorso un po' più ampio, poi ti lascio parlare, scusami Marco, è che io pensavo appunto al fatto della imparare la cultura per apprezzare poi l'oggetto videogioco. Questo è vero e potrebbe essere vero per molte forme di arte, che sia la musica, il cinema, la letteratura, il teatro, la danza. La danza è veramente tosta e, ripeto, mi rendo conto adesso che ho una fidanzata ballerina, quanto può essere spiazzante vedere un balletto senza capirci qualcosa dentro, ma proprio un'infarinatura. Detto questo, la cosa che più frena il videogioco per questo tipo di percorso di cultura, A, che è un'arte giovane, si vuole anche chiamarla arte, e B, che è l'arte che invecchia più facilmente di tutte le altre. Perché oggi uno può guardare Quarto Potere e dire me coglioni, cioè appunto. Io quando riguardo 2001 Odissea nello spazio, con film di 44 anni fa, cioè quasi mi metto a piangere per l'emozione che provo. Sì. Quanto, certo, se vedi Donkey Kong... morte. Però il porco de tue, infatti. Però porca miseria, il videogioco è molto più... invecchia più facilmente, cioè anche giochi che ci sono nel cuore perché li abbiamo giocati a suo tempo, se venissero fuori adesso ex novo non avrebbero lo stesso impatto né sull'ambiente del videoludico, sulla società videoludica, né su di noi. Cioè io mi ritrovo a guardare dei film vecchi di 50 anni e dire che figata totale, o leggere dei libri scritti 500 anni fa e dire stratosferico. Giocare dei giochi vecchi di 15 anni a volte dice sì, però sta roba qua andava bene una volta ma non va bene più, è molto più invecchia di più, e questo, sì, questo è un grande limite, il fatto che sia comunque ancora legato così tanto alla tecnologia e ancora così poco alla narrazione, e poi è difficilissimo fare narrazione per una cosa interattiva, lo riconosco, fa sì che sia molto più difficile trasmettere un certo tipo di emozione che sia slegata dal mezzo con cui la stai vivendo. Ma vedi, sono d'accordo sull'obsolescenza tecnologica, fondamentalmente questo è il limite del videogioco, sempre a livello percettivo, perché poi a noi non ce ne frega se un videogioco sia uscito 10 anni fa, se è bello noi lo sappiamo apprezzare perché abbiamo gli strumenti per apprezzarlo, ce lo godiamo comunque, ci mancherebbe. Ma non fanno però nessun tipo di, in Italia sto parlando, forse in altre parti del mondo sì, non lo so, in America, però non c'è, comunque qui in Italia non vedo una monografia sul videogioco quando esce un nuovo videogioco, ad esempio, e si va in aula universitaria, ma no, non universitaria, anche in un GameStop, anche in un centro commerciale eccetera, e c'è qualcuno che magari ti introduce al videogioco. Allora ragazzi, benvenuti al nuovo gioco X, nuovo Uncharted, in questa esperienza qui Nathan Drake, questo è quello e quell'altro, e introduci in un modo come se fosse un libro. Non dico di venire l'autore, che ci mancherebbe, ci sarebbe anche bello che l'autore viaggiasse a presentare il videogioco, ma non c'è un dibattito, non c'è un discorso culturale, non c'è qualcosa che te lo renda unico e poi magari spinga la gente a acquistarlo anche subito quel videogioco, a dire ok, mi ha convinto, è un'opera unica, e magari ad affinare gli strumenti culturali. Questo perché quel famoso 7% che diceva Alex, comunque alla fine è invasata, c'ha già l'hype per altre cose, purtroppo viene invasata trailer, con le cazzatine, quindi comunque quelli che hanno la possibilità di comprarselo e che stanno invasati lo comprano uguale, ancora senza monografia, anche se è una minchiata poi alla fine, perché ce ne sono tante di minchiate annuali che vengono comprate proprio al primo giorno e ci si investono i milioni. Per cui sì, diciamo, questa cosa che dici tu può essere, magari può servire per quell'altro 93% che magari dice ah, però tutto per quello, sommato. Per quello dico io. Ma diamo una percezione diversa al videogioco, dico. Lo fanno coi libri. Dico, c'è l'autore, comunque si parla di un libro e poi si vende nelle librerie. C'è tanto di. Qua invece mettono slogan, cartelli pubblicitari, i videogiochi disponibili dal giorno tot, i video sparati a manetta, i trailer nei vari GameStop, eccetera. Ovviamente le recensioni online. Tutto un apparato ok di marketing che va bene, ma perché non me lo decontestualizzi un attimo e lo fai diventare un prodotto che poi magari vendi pure al momento? Sai quante conferenze universitarie si potrebbero fare su Game Studies in cui viene presentato il gioco X con tanto di persona che lo sta giocando proiettato sullo schermo, si parla un po' di alcuni retroscena realtà eccetera, e ci sono 100 copie ammonticchiate qua che per quell'evento universitario, faccio un esempio, invece di costare 60 o 70 ne costa 40 o 30. Vi assicuro, secondo me, che invogliati dal fatto che costa meno, come quando ci sono i sottocosto, ci verrà un pacco di gente solo per comprare il videogioco, ma dopo la conferenza universitaria. Scusami, non è che si deve parlare in maniera universitaria del videogioco, dopo la conferenza tenuta in università o in un altro luogo, per intenderci. Sì, fondamentalmente stai dando, diciamo, un po' come se fosse un cineforum. Come un cineforum, tematico, monotematico... Sai che significa poi la gente educare? Cazzo, ma allora sai, il videogioco non è soltanto quella cosetta che ficco dentro la console e gioco, ma è una realtà invece molto più complessa, fatta di rapporti di produzione molto più ampi. Allora la gente, volente o nolente, nel cervello glielo ficchi, che è qualcosa di più, che può essere visto in maniera diversa. Magari lo associa anche a dei libri, di cultura videoludica quando presenti quel videogioco, quindi catene distributive di libri, catene editoriali a parte, specializzate e via discorrendo. Ma così fai un evento del videogioco, lo fai diventare un evento, l'uscita, un forum. Ma cazzo, sarebbe bellissimo, organizzato in ogni città. Attenzione che Pizzi potrebbe rubarti l'idea a fare Ludoforum Cast. Ma sì, stiamo parlando di pirateria, per cui rubiamo, Scarichiamoci l'idea. Guarda, mi piacerebbe tanto, davvero. Immaginatevi poi un forum, ma qua chiudo, con i riferimenti ad altre opere... multimediali, quindi un incontro multimediale. Quindi vi piace The Last of Us, che adesso deve uscire, no? Tutti compreranno. Lo sapete che c'è anche questo film sull'apocalisse, ci metti The Road, per esempio, che deriva dal libro. Scusami, ma The Road mi ha messo un'ansia, una tristezza, madonna santa, che... è tosto. Lui l'ha scritto McCarthy per il figlio, era un regalo che gli ha fatto, si è drogato, si è dato la droga. Beh, è crudo effettivamente The Road, però vi dico che è come quando tu vuoi dire a un amore gigante, l'amore della tua vita, cosa farei io per te, fino a che punto mi spingerei io per te. Questo ha fatto fondamentalmente il padre con suo figlio, perché il libro è dedicato al figlio, ripetiamo, McCarthy. Grandissimo romanzo, non so se avete letto, l'avete letto. No, mi sono fermato al film. Tra l'altro ho visto il film in un periodo dove appunto il mio amore mi aveva appena mollato, per cui ero ancora più depresso. È amplificato totalmente. Sì, ho visto il film, ogni tanto stavo chattando con lei che mi diceva ma insultava. Sì, ancora, sì, no, era un momento in cui non sapeva neanche lei se andare avanti oppure no, poi ho detto no, dai, non andiamo avanti, fanculo. Meraviglioso, guarda, un'esperienza. Sì, niente, quindi tutto qua. Questo nel discorso pirateria, lo ficco io, cioè, come a dire, ci si può fare tanto per eliminare la percezione che sia del videogioco, ma bisogna partire dalla base, non da... dall'alto, da chi cracca o permette, gli hacker che permettono di infrangere il DRM via cantando. Vabbè, ma loro si divertono, cioè, per loro è per sì. Loro quello è il divertimento del gioco, sempre, non gliene frega un cazzo fondamentalmente. Assolutamente, devono far vedere che sono bravi, che sono i primi. Il grande scrittore, cioè William Burroughs, lo scrittore che dice: volete eliminare il problema della droga? Lui, drogato da anni, quando ha scritto questa cosa, non dovete eliminare lo spacciatore, non dovete eliminare chi sta all'alto della catena distributiva, dovete risolvere i problemi a chi sta al basso, perché se risolviamo i problemi di chi sta alla base della piramide, chi sta verticalmente su immediatamente dopo non ha senso di esistere e sparirà automaticamente. Questa è una cosa che vale, secondo me, per tutti i tipi di discorsi piramidali. Bellissima, possiamo cercare di riesumare Roberto, che nel frattempo è morto. Finito? Sì, finito. Aspettavo l'applauso del pubblico che ripartiva con il suo ritmato. Ecco. Sì. Ok, adesso così posso entrare anch'io. No, mi piace un po' l'approccio che diceva anche Luigi, nel senso che semmai l'idea è molto interessante. E l'attacco un po', magari così torniamo un po' sul seminato. Anche nel senso, non che chiaramente abbiamo parlato di qualcosa che non c'entrava, diciamo più seminato tecnico, collegandomi a GOG.com, che è l'ex Good Old Games, nel senso che propone un'alternativa, diciamo, virtuale, un po' vicina a quello che sono insomma le idee di Luigi, ovvero che al di là di quello che è il prodotto videogioco, che fra l'altro offre senza DRM, quindi con tutte le libertà e le comodità del caso, non offre solamente videogioco, ma anche un contorno, che possono essere le colonne sonore, che possono essere documenti che raccontano cose particolari. Nel senso, cerca di contestualizzare il prodotto all'interno di quello che è l'esperienza ludica. Quindi fornendo magari più informazione o più possibilità. Dei contenuti speciali che invece che essere fisici sono digitali. Bravissimo, sì, nel senso, allarga l'esperienza, nel senso, non si ferma solamente a dirti guarda, questo è il gioco, scaricatelo, giocatelo, copialo, fai quello che vuoi, ma ti dice guarda che c'è questo... E c'è anche tutto questo altro panorama di possibilità che ti permettono di approfondire o di godere più a 360 gradi quello che è stato il lavoro di una casa, di una software house. Quindi secondo me, che in tu, questo senso... Che tu vai a comprarti il gioco, cioè, ah, che bello il gioco, allora ti dicono guarda, c'è anche questa cosa, ma non mi interessa. No, no, guarda, c'è anche questa cosa. Ma no, io voglio soltanto. No, no, tu te la devi prendere questa cosa. Che c'è qui, c'è anche questa. Poi te la tirano. Cioè, prendi tutto il blocco. Vittorio, no, sono forti, sono forti, sono forti. Ma che possono collegare anche con la CD Projekt, no? Bravissimo. Quelli di ormai il famoso Witcher, che sono quelli che sono dei pazzi scatenati. Poi, tra l'altro, io penso che siano. A parte che fare dei giochi. Probabilmente il primo Witcher era figo, però se andiamo a vedere graficamente faceva un po' cagare. Sono dei pazzi scatenati, loro praticamente dicono apertamente: a noi della pirateria non ci interessa un cazzo, ci frega solo quella della prima ora, cioè quella proprio del day one, che è quella che poi ci dà più noia. Quindi loro vanno a mettere delle protezioni, poi non sono neanche delle protezioni invasive o particolarmente difficili da superare. Però loro gli interessa bloccare gli smanettoni della prima ora. Dopodiché poi rilasciano anche patch correttivi, perché tanto come tutti i giochi ovviamente hanno bisogno di patch, e di solito sono dei patch che vanno a mettere online. Successivamente eliminano proprio il DRM, cioè come nel Witcher 2 mi sembra che addirittura con la prima patch eliminarono il DRM. Non per sbagliare, però... ricordo male, fecero questa cosa qui proprio dicendo: a noi ci frega soltanto di eliminare quelli, le perdite, limitare le perdite della prima ora, poi dopo non ce ne fotte una cippa. E, insomma, no, alla fine sono comunque abbastanza premiati come metodo, diciamo, non dico di antipirateria, ma come metodo di vendita, perché loro non fanno antipirateria, fanno una diversa concezione di vendita, quindi vanno a vendere un prodotto che non dà fastidio all'utente finale. Scusami, no, cioè che, secondo me c'è un approccio più onesto, nel senso si crea un patto intrinseco fra il giocatore e lo sviluppatore, nel senso che lo sviluppatore dice: caro giocatore, questo è il mio prodotto, fanne quello che vuoi, e il giocatore, rispondendo se vuoi in maniera più matura a quella che è l'offerta, allora si spinge addirittura a comprare, nel senso capisce che c'è un valore dietro quello che è il bene fruito. Questo sicuramente è un passaggio mentale che... Lasciamo stare poi il supporto che danno prima, durante e dopo ai giochi. Perché... tra motori per costruire avventure, anche con il primo Witcher e con il secondo Witcher, ovviamente devi costruirti le due avventure, non mi ricordo, di Creation Kit praticamente. Varie patch correttive, addirittura dei DLC che venivano inseriti tramite solitamente, se non sbaglio. Sono comunque una casa che cerca di essere più onesta possibile, cioè vende se stessa innanzitutto, non vende tanto il gioco, ma vende se stessa. È un modo comunque leggermente diverso dalla media di approcciarsi col pubblico. Sentiamo ancora gli applausi lenti. No, ma stavo aumentando, però io visto che c'è il ritmo che proprio si andando verso il finale, quindi stavo pensando una cosa su GOG.com. Io ho registrato con Andrea Maderna di Outcast, mi sembra 3 giorni fa, no, venerdì scorso, una puntata in cui lui è stato partecipe al Quo Vadis, una riunione che si è fatta a Berlino, nella quale c'erano vari sviluppatori indipendenti e non che parlavano, e c'era anche GOG.com, se non sbaglio, ha parlato di come evitare il fenomeno, diciamo, dell'appropriazione degli abandonware, perché GOG.com ha questa sezione in cui prende questi abandonware e li ripubblica. Praticamente cosa fanno? Questa è una cosa molto bella ed è un esempio etico, secondo me, forte su quello che significa il rispetto del lavoro di produttore del videogioco. Ovviamente se il gioco è abandonware lo tolgono dal sito di abandonware dove l'hanno preso per metterlo su google.com, e ci lasciano un banner lì. Ogni volta che qualcuno va a scaricare questo titolo su google.com, una percentuale va direttamente a chi deteneva i diritti su questo del gioco considerato abandonware, fondamentalmente. Quindi guadagnano anche chi li aveva nomenclati, questi giochi reperiti, trovati, magari rimessi, ripuliti a livello di codice, di bug, eccetera, e messi sul sito di abandonware. E questo secondo me è una cosa che rispetta tantissimo. E poi su GOG il diritto. Di tanto in tanto rilasciano dei giochi gratuiti, magari ad ore, sì. Tipo Fallout, io mi sono preso Fallout tutte le promozioni al 60-70% in meno, ma pochi spicci proprio. E poi li ripuliscono, cioè li rendono anche in grado di essere giocati su Windows 7, per dire. Quindi magari venite Steel Sky su Windows 7. Grande, che poi tra l'altro la conferenza parlava anche del fatto del lavoro che c'è dietro per l'aggiornamento ai nuovi sistemi. Windows 7, adesso poi ci sarà Windows 8, poi Windows 9 per intenderci. Loro devono fare un casino per aggiornare tutto l'archivio alle nuove... Sì, loro creano XE, vai XE, doppio clic e via, cioè giochi. Sì, poi qua, su questo sorvoliamo, sì. Nel senso che fanno un po' di sciacallaggio, se vogliamo, su questa cosa, però vabbè, questo è magari una cosa più peculiare. No, spiegaci lo sciacallaggio. Nel senso che la maggior parte delle patch che recuperano per la rete, per i giochi soprattutto vecchi, recuperano spesso il lavoro fatto da altri e rilasciato in maniera gratuita, spesso neanche citando la fonte. Quindi adesso ci è capitato, nel senso, su Games Italia, per capire un po' come abilitare l'italiano, quindi andiamo a spulciare effettivamente l'installazione, quello che è stato fatto, e scopriamo spesso che sono un collage di più pezzi fatti da più persone per far andare sistemi moderni, perché comunque si è sbattuto per. Quindi su questo lavorano un po' di sciacallaggio. Poi capisco anche che sarebbe probabilmente stupido rifare il lavoro che qualcun altro ha fatto, quindi questo sicuramente va considerato, però giusto per dare un quadro più completo. È la soddisfazione. No, anzi, se è il servizio online che preferisco. 5 secondi. No, per carità. Cioè, se vuoi paragonarlo con Steam ti offre un servizio che non ha paragoni probabilmente, però mi sembra più onesto come rapporto col videogiocatore GOG, appunto per quello che diceva anche Luigi. Ragazzi, ma Mass Effect, hai ragione, Mass Effect, no, ci arrivavo alla fine, volevo guadagnare io la fine questa volta, devo comprare la macchina. Allora cancelliamo, non ho detto nulla, questo viene cancellato poi in post produzione, verrà messo Dragon Age. No. Ok. State sovrapponendo, state diciamo sovrastimando la capacità e la voglia di Simone di montare questo podcast. Potremmo metterci qua a dire tante, tante belle parolacce a Simone, non se ne accorgerebbe, lo lascerebbe dentro. Secondo me esce domani mattina alle 7. Puntata con tutti i click, le cose, tranquillamente. Che ci frega. E quindi, che ci importa. Che ci frega, che ci importa. E quindi insomma abbiamo parlato... parliamo anche di quella notizia che poi sembra smentita, o non so se poi è stata smentita, delle connessioni, delle... Mi sembra la Play 4, no, la Xbox anche è stata smentita la connessione online. Posso dire una cosa interessante secondo me? Ma puoi anche dire stupida se vuoi. Dico una cosa stupida allora, parallelamente, ripeto, pochi giorni dopo la registrazione della puntata sui giochi che perdono le scatole, non mi ricordo neanche il titolo, scusate, Adobe, che insomma Adobe la conoscete, ha presentato la nuova versione della propria suite di programmi, cioè tutta l'intera suite, per farvi capire Photoshop, After Effects, Premiere, Dreamweaver, InDesign, Acrobat, tutta aspetta, io ne ho sentito parlare Hitler di questa roba. esatto. Può essere. E hanno detto la prossima versione sarà solo download, cioè non vendiamo più le scatole. Tanto che grande idea, hanno ascoltato il nostro podcast, hanno fatto questa grande genialata. Praticamente tu pagherai l'abbonamento a questi prodotti, cioè non potrai più comprare il prodotto a 1000 euro, paghi 60 euro, 50 euro, 40 euro a seconda del tuo piano al mese e tu ti becchi sta cosa qua per tutti i mesi che rimane connesso. E la validazione del software avviene ogni 30 giorni, cioè almeno una volta ogni 30 giorni devi connetterti in modo che lui ti validi il software collegandosi al sito di Adobe che dà la certificazione che tu abbia pagato per quel mese. Secondo me Microsoft e Sony, se non sono coglioni, sfrutteranno la stessa cosa, probabilmente non sarà una always on, ma a intervalli regolari, anche perché poi comunque diranno ogni 5 minuti c'è un update, abbiamo risolto i bug dell'interfaccia che mostrava tutti i triangoli verdi, cazzi ne so, perché comunque cioè, immagino che PlayStation venga aggiornata con una relativa frequenza, o no? Beh sì, anche perché sennò gli bucano il firmware. Come esatto, allo stesso modo, nel senso comunque alla fine queste console sono già always on nel 90% dei casi, per cui tendenzialmente non sarà un always on totale globale, nel senso non è che se non ti va la DSL non puoi giocare a Beh, inserire il nome mettiamoci, gioco qui. Mettiamoci pure che le prossime console saranno dei PC cazzuni, quindi PC molti solo sono più facili da vabbè, ma vi lamentate sempre, e quando non sono dei PC è perché non sono dei PC, sono difficili da programmare. No, ma io sono PC, io sono contento. No, sono contento, non mi frega il cavolo, francamente. Possono essere PC, possono essere tecnologia proprietaria. Scatole di biscotti. Scatole di biscotti con i biscotti dentro, quelli che si mangiano online. Non mi frega niente proprio. Tanto io non so se le comprerò, non penso che le comprerò. Guarda, che un sacco di gente non le comprerà. E c'è la crisi, eh. C'è la crisi. Ma, no, a parte tutto, io mi... come si dice, mi ricordo che la PlayStation 3 l'ho comprata a mio fratello come regalo, potevo permettermelo, allora gli ho detto, visto che tu hai bisogno di un lettore Blu-ray e secondo me un po' sei un giocatore, ti hai beccate la PlayStation. Lui è sempre stato un Xbox aro e un PCista, ed era al fine un po' perplesso, però era contento, alla fine l'ha anche usata. Però quest'anno non gli ha regalo mica la PlayStation 4 o l'Xbox Antani, come si chiamerà, cioè non ci sto dentro, cioè nel senso proprio gli voglio bene, mio fratello, eccetera eccetera. Ragazzi, eccetera, ma il conto è la prossima, rosso, scusate, prima che me lo dimentico, la prossima puntata la chiamiamo, quella, la diretta sarà Xbox Antani. Sì, sì. Ormai cambia la copertina, via, abbiamo va deciso bene. Xbox Antani. Anche pubblicatela, visto che fra 10 giorni dovrebbe esserci, anzi fra 10 giorni, fra 7 giorni c'è sta diretta. Ok, Xbox Antani diretta al 21. 21? Penso di sì. Aspetta, 21. Accendiamo. L'importante è che non sia il 22 o il 23, insomma. No, praticamente Microsoft ci ha chiamato per chiedere se c'eravamo liberi il 21 per la diretta e ha impostato la data, quindi... A posto, siamo contenti. Sì, sì, sì. Qualcuno che per fortuna ha una risposta, a me non mi sta bene il 21. Perché lui ha fatto spostare il 21, era prima. Vabbè, comunque, in ogni caso, abbiamo visto che queste prossime scatolette conterranno biscotti, quindi è una cosa molto bella. Però ci sono dei lati positivi in tutta questa merdata. Innanzitutto, non so se qualcuno è riuscito a rintracciarlo, io non ci sono riuscito purtroppo. Sentì di un tizio che, se non sbaglio, era o della AMD o della Nvidia, che praticamente diceva: ragazzi, se noi produciamo tutte queste schede grafiche diciamo sempre più potenti, è anche grazie alla pirateria, perché se non ci giocasse nessuno sui PC, questo vale solo per i PC ovviamente, se non ci giocasse nessuno ovviamente tutto questo smarronnamento non lo faremo per aggiornare i sistemi, per creare schede grafiche sempre più... È una idea condivisibile, nel senso, può in qualche modo portare dei benefici, tra virgolette, anche se indiretti? Posso entrare? Entro? Devi. Devo. No, nel senso che concordo con questo discorso, nel senso che ha un effetto collaterale. E allacciando a mia mamma Microsoft, è una delle chiavi di volta con cui ha praticamente monopolizzato i sistemi operativi, nel senso che non è mai stata, diciamocelo, troppo rigida sul discorso pirateria informatica casalinga. Questo perché in questo modo la maggior parte dei sistemi potevano contenere Windows e quindi la gente familiarizzava con il sistema operativo e si abituava a utilizzarlo, per poi recuperare la maggior parte delle licenze e quant'altro in ambito lavorativo, dove effettivamente lì ha fatto il business. Quindi, diciamo, ho usato la pirateria, non dico come cavallo di Troia, non è che diceva copiate tutto liberamente, ma diciamo che è stata permissiva, se vogliamo, nei confronti di chi utilizzava non propriamente il proprio software, in modo tale che... Scusami, invece, al contrario di quello che è successo appunto per il satellite, dove ci hanno dato per 4 anni la dose gratis e poi hanno detto chiuso il rubinetto e mo come fate, visto che siete assuefatti al carcio tutte le ore di tutte le settimane? Chiusa. Beh, quello è vecchio trucco, Sì, sicuramente, nel senso che poi anche appunto il discorso delle schede grafiche, il discorso dei processori, chiaramente se la base d'utenza è ampia, tanti giochi che sfruttano la tecnologia, quindi se invogliati comunque a svilupparla. Di contro il mercato tende a faticare, se vogliamo. È anche il motivo per cui il mercato PC è diciamo ancora vivo nonostante console e quant'altro. oppure di contro è il motivo per cui Nintendo DS a un certo punto è quasi morto a livello di software, nel senso che la pirateria lì è stata troppo devastante rispetto a quello che era un bacino sostenibile. Sono i pro e i contro, chiaramente. Beh, sempre il solito discorso, è un problema di accessibilità, quindi la pirateria, se la intendiamo soltanto come appunto appropriarsi indebitamente di qualcosa, di un contenuto, di un oggetto o altro, per, guardando l'ottica positiva, avere un'idea di come sia fatto questo oggetto, eccetera, eventualmente poi pagarlo, questo è sicuramente positivo come cosa, ed è quello che hanno provato a fare a un livello legalizzato i vari PlayStation Network o Xbox Live, anche se a pagamento, con le varie demo che rilasciano e permettono di assaggiare una parte del gioco. L'essere umano non può essere regolamentato, se tu gli permetti di scaricare tutto il gioco avrà la tendenza a giocarlo, quindi a goderne fino alla fine, però sicuramente ci sarà qualcuno che l'acquisterà il gioco dopo averlo provato. Se prima vi ho fatto l'esempio del mio amico, ci saranno anche altre persone che faranno così, cioè provano, giocano magari fino alla fine e poi dicono mi è piaciuto tanto sto gioco che lo devo comprare per averlo. Quindi questo effetto positivo, se vogliamo, c'è anche questa risonanza, però bisogna vedere se va a controbilanciare tutto il mancato guadagno poi di chi invece scarica e non acquisterà mai originale. E questi qui sono il 100% di chi scarica? Cioè, chi scarica i giochi? Sicuro che se non avesse la possibilità comunque si comprerebbe tutto quello che scarica? Se non avesse la possibilità? Se non avesse la possibilità come fa a comprare? Non capisco, cioè se avesse la possibilità... Se non avesse la possibilità di scaricarsi i giochi. Cioè... Ah, di scaricare, ok... film, musica, quello che è. E poi penso a questo discorso generale. Beh, se uno ha la possibilità di scaricare tutto abbastanza, cioè avere un range di videogiochi poi disponibile abbastanza elevato, in quel caso vuol dire praticamente che, non lo so, non è un grande giocatore, è uno che scarica vuota mazza, basta. Quindi mi fa pensare che chi non avesse possibilità di scaricare non è interessato nemmeno a trovare questa possibilità di scaricarlo, non è interessato così tanto ad approfondire il mondo dei videogiochi. Oggi come oggi la stragrande maggioranza della gente che scarica è perché è interessata ai videogiochi, scarica in maniera abbastanza pressante e importante, non solo i videogiochi scarica, per intenderci. Roberto, tu che dici? No, nel senso che rispetto a quello che ho detto, l'unica cosa che mi sentirei di aggiungere riguarda un po' il discorso della salvaguardia, nel senso che la pirateria permette anche la diffusione, ricollegandoci al discorso abandonware, permette la diffusione e non la perdita di alcuni giochi che magari non hanno più l'interesse commerciale e quindi vengono più supportati. Questo è forse l'effetto più grande a livello positivo, che non sia strettamente legato al commercio, questo proprio come salvaguardia dell'opera in sé. Cosa vecchia, ma secondo te quelli che oggi scaricano, cioè se volevo svangare la domanda, vabbè, mica chiedi ai tuoi amici tranquillamente. Ah, allora posso chiedere, che lo chiedo agli amici, posso rispondere. Amici, sì, no, se fosse domani, si inventasse il sistema antipirateria perfetto e non fosse più possibile scaricare, quanti di queste persone poi si andrebbero ad aprire il portafoglio a comprare? Cioè, quanto recupererebbe il mercato? Pochissimo, anche perché nel momento in cui tu spendi dei soldi, quindi devi entrare in un'ottica di un bilancio, ti vai a giocare quello che compri a fondo e quindi chiaramente avresti meno possibilità. Te lo spulci, come si faceva una volta quando magari la pirateria, soprattutto quando eri più piccolo e quindi meno possibilità di interagire, era, se vogliamo, meno diffuso o più difficile, di difficile accesso. Quindi i giochi in un mercato anche di dimensioni più ridotte te li godevi a fondo e sapevi vita, morte e miracoli, cioè ci passavi dei pomeriggi e cioè adesso finito uno si passa subito al successivo, se poi finisci. A volte appunto neanche lo finisci, se poi non hai neanche speso per averlo non ti fai neanche delle possibili eventuali remore a comportarti in questo modo. E il nostro Games Bond che dice? Allora, io ho immaginato un mondo in cui di colpo domani non va più niente di, non va più torrent, mi si è bloccato il torrent, i Mule, non va più mega, non va più niente, Immaginate una roba del genere. Solo aspetta, nel caso dei videogiochi. Ma Mega lo usano ancora per scaricare. Vabbè, quella, qualcosa del genere. Fai share, no, fai Zilla, fai Antani. Cazzo. Chiedo perché. Fammi finire il discorso. Vabbè, vai. No, non vorrei che mi chiudessero Mega, che ho un po' la roba d'ufficio dentro. Però anche tu sei veramente furbo. Tutto io qua. Allora. Praticamente viene cancellato quel 93% famoso. Ok. Di questo 93% quanti si convertono? Cioè, non è che uno poi a un certo punto compra i 10 giochi che si scaricava al mese, se ne compra mezzo, qualcosa. Fondamentalmente. Uno, due, to. Esatto. Cioè, al minimo. Mese, forse più di. Forse meno. Esatto. Sì, no, pensavo più all'anno. Dal 7% passano all'8%, al 10% proprio per essere. Il problema è che poi c'è tutto il collaterale dell'industria che collassa. Cioè. Tutti quelli che giochicchiano, fanno hardware, PC, hardware, ma tutta la stampa digitale non, cioè avrebbe la stessa rilevanza? No, comunque l'industria collasserebbe. Ora come ora, nonostante tutto quello che pensano, c'è un appunto, cioè la pirateria è un punto di equilibrio, c'è la diffusione di copie pirate di queste cose, dell'usato. Cioè il fatto che ci sia tutto questo giro che non fa guadagnare i produttori è comunque parte integrante di un sistema che nel suo equilibrio instabile sta funzionando. È ovvio che quelli che dicono oh che cazzo mi stai a rubare roba, si incavolano, però è ovvio, devono anche capire che è parte integrante del sistema. E la cosa bestiale è che non è che è un 5% fisiologico, probabilmente la percentuale di copia illegale fisiologica è molto più alta. Però, ripeto, è che loro dovrebbero concentrarsi su quel famoso 7%. Detto questo, l'eliminazione totale globale porterebbe a una fine dell'industria, non a un rifiorire della stessa. Questa è la mia opinione, ma sono molto sicuro di questo. Sommato lo condivido, ma io sono anche convinto che, non so se è una cosa che tocchiamo marginalmente adesso, che la pirateria più dannosa è quella fatta con l'usato. Secondo me, cioè, l'usato è peggiore per quanto riguarda i publisher, per quanto riguarda tutta la cura dei produttori. Il vero cancro da eliminare, perché poi su quello non ci guadagna nessuno, se non poi l'utente finale che si rivende il gioco. E lì, GameStop, quello ci guadagna. Storp ci guadagna, e i vari Game Up e via dicendo ci guadagnano fottio. Secondo me è quello la vera piaga, cioè secondo me abbattere la pirateria è una scusa per dire non posso combattere l'usato, perché tutto sommato non so neanche se è legalissimo combattere l'usato, o perlomeno non so neanche se è proprio una cosa eticamente accettabile dalla massa, non è che posso dire ragazzi fotto, perché secondo me la gente si stranisce pure. Quindi secondo me è un po' anche presa come maschera in realtà per andare a colpire tutta un'altra fetta di mercato che secondo quello che è un po' in esperienza diretta e indiretta è quella che viene più a togliere soldi ai publisher. Poi non lo so, ditemi voi. C'è il vuoto. Mi sembra insomma una visione corretta, nulla da eccepire, sia la tua quella di Alex. Effettivamente, guarda, la pirateria è anche un modo per farsi pubblicità, paradossalmente. Ah, c'è sempre il parlarne male, perché se ne parli, insomma. Sì. Quindi è un grosso canale di marketing, quello della pirateria. Non sembra, ma fa tantissimo poi come distribuzione del proprio prodotto, anche se non c'è un ritorno economico, l'immagine poi che ne consegue di quel prodotto, di quella realtà. Certo, c'è il conseguente appiattimento del fatto che convive con altri giochi scaricati, che quindi magari restano depositati in hard disk per futuro utilizzo e poi ti cadono nel dimenticatoio. C'è anche questo. Però comunque non, i produttori, come dici, non so se hai detto tu o Alex, comunque il fatto di contemplano questo aspetto sin dall'inizio, sanno che fa parte del gioco. per usare un eufemismo. Una parte del prezzo pagato del day one è proprio questa, è la prima. Usato. Beh, sì. Va bene, io direi innanzitutto di fare, non so se è una cosa bella da dire, ma fare una pausa pappagallo per Bertoni, che ha necessità. Io lo vedo che ha necessità, perché la prostata a una certa età comincia a farsi sentire. Non so se c'è ancora, è andato Roberto? No, sto usando il pappagallo in questo momento, quindi volevo mantenere un po' di silenzio. Ah, possiamo stare qui un'altra mezz'oretta se vuoi. Sì. Sta concentrando, dai. Se devi andare, vai, aspettiamo 5 minuti e poi riprendiamo. Questo rimarrà nel podcast, tra l'altro, perché Pizzi non taglia. Pizzi non taglia. Pizzi è lui pappagallo in questo caso, ma lui non lo saprà fino a quando non ascolterà il finale. Fondamentalmente abbiamo finito, giusto? Sì, se avete chiuso, aspetto, se no. Ma se che altro c'è da dire, non lo so, viene in mente qualche cosa? No, sinceramente no. Viva la figa! Non so cosa c'entra con la pirateria, però. Ma ieri a Roma ho visto sterminati campi di patata, cioè. Vabbè. Tu vivi nella città dell'incazzamento. No, è che al Foro Italico per l'internazionale di tennis c'era veramente uno sterminio di fica, proprio, cioè, lo dico tutte, proprio col massimo. Tutta cerca il marito, insomma, poi. Eh? Tutta cerca il marito, poi. Sì, probabile. No, ma c'erano tutte queste standiste, però veramente una mediamente son carine, ma ieri invece erano proprio di alta classe. Vabbè, visto che appunto la mia vescica è natatoria, giusto per capire, vogliamo continuare a lungo oppure vado a fare il cambio armadio? No, dai, possiamo anche... Io direi che salutiamo, ciao. Vabbè, facciamo un rientro dalla pipì. L'unica cosa che c'è, un commento dall'ultima puntata. L'ultima puntata di coso. E niente. Ricordiamo, stiamo chiudendo quindi, giusto? Ricordiamo i contatti. Siamo troppo avanti. Era bellissimo. In un totale trance extra posta. Antagonistica. Sei tornato per dire contatti. No, non capisco, cioè nel senso, stiamo chiudendo, ricordiamo, ci salutiamo, ricordiamo video ludica, Twitter. No, perché sembra che dovessimo chiudere così, ok, ciao. Sì, Roberto è pisciato, arrivederci, cioè, via. Questo penso, ma... Forse non ho inteso bene cosa avete in mente di fare. Però se Simone scelto l'effetto della goccia finale, insomma, è qua. Io tutta questa roba la terrei per me, è bellissima. Allora, va bene. Poi rientriamo dalla pausa pappagallo e cominciamo a vedere i commenti dal web, però ci hanno detto che praticamente da dietro le quinte ci dicono che i commenti non gli stanno bene e quindi non so, andiamo su direttamente ci salutiamo tra di noi innanzitutto, ciao Luigi, ciao a tutti, Luigi. Ciao Alex, ciao Roberto, ma poi cominciamo a ridarci tutti quanti riferimenti, siti, Cazzo Imperi, non so, Luigi, tu c'hai un tuo sito riferimento a Cazzo Imperio? Ma sì, c'è un sito, però lo alimento così poco, comunque è su Blogspot, si chiama electronicself.blogspot.com, in cui scrivo di roba videoludica. Ma non. Ne è soltanto uno o ne ha diversi? Tanto qui c'è la musica, le cose. Che solo quello. Sottofondo ci sono le cose che... Poi va bene, non si sentano. Poi Roberto, tu c'hai, a parte OGI, puoi anche citarlo, eh? OGI, poi ho avuto OGI, it's in the game. www.pappagallo.it pappagallousato.it, che è un sito a cui tengo molto, a cui lascio molte delle mie cose. E poi trovate su anche in giro per la rete, Eurogamer oppure altre cosacce che scrivo qua e là, ma niente di importante, dai. Un saluto da parte dei miei amici, chiaramente, che ci hanno tenuto a dire che hanno apprezzato la puntata. ti hanno fatto passare dei bei momenti, anche se non giocavi, ma eri costretto a guardare comunque. X copy, esatto. Alex, tu vuoi dare qualche riferimento, qualche cosa? Un IBAN? Ma sì, dai, oggi... un porto due, così veloce. Dai. Oggi do il mio indirizzo Twitter, dai. Ogni volta do qualcosa di diverso. È chiocciola Alex G senza la E. A-L-X-G-E, sì. Ok. Dove scrivo le mie minchiate peggiori. Tanto nessuno mi guarda, per cui va bene. Meglio posso così. Andare avanti a scrivere minchiate. Naturalmente, se vi sentite degli scrittori in erba, scrittori che usano erba, potete anche mandarci qualcuno dei vostri lavori, così se valutiamo che il vostro livello di minchiaggine e di capacità, che sono un aspirapolvere, cos'è? Credo che sia il mio Mac che sta scaldando all'infinito. Ah, vabbè. Comunque, se pensate che il vostro livello di minchionaggine e di ciottoneria sia almeno accettabile come il nostro, potete mandarci e vedere. Magari potreste ritrovarvi a vostra insaputa a essere pubblicati su Dietrologia Videoludica. Probabilmente soprattutto a vostra insaputa. Quindi, senza sordi, eh? Senza sordi, assolutamente. Anzi, se riportate voi ancora. Se due spicci ce li date, insomma, sai, noi crederemo. Piaceteci sul nostro sito, pagina Facebook, che è onomatopeica, Dietrologia Videoludica, fa rumore proprio. Ogni nuovo like gli diamo una copia di Xcopy, però su dischetto non originale. Se arriviamo a 150 like, noi avremo una dotazione di Big Bubble Gusto Morte, quindi mi raccomando, piaceteci. No, scusa, io però purtroppo devo dissociarmi, cioè io... Non hai la tua Big Bubble Gusto Morte? No, ci ho lavorato, per cui non posso. Vabbè, tu non la vai, no, ce la ciucciamo noi, mi spiace. Naturalmente salutiamo anche Mass Effect, purtroppo Roberto si è scordato e quindi... mi spiace, ma lo saluto io e quindi la macchina me la rifarò io. Saluta il nostro il magnate svizzero. Il magnaccia svizzero, vuol dire. Eh beh, certo, il nostro magnaccia svizzero Stefano Biggio, che penso che sia ancora schiavizzato a pulire la macchina del vapore a mano, quindi sarà molto doloroso, però giustamente guadagnando 40.000 euro al giorno, insomma, penso che possa anche valere un ostione di terzo grado, no? Insomma, è abbastanza buono. Abbiamo anche un sito su G+, dove William Shatner ci chiede, ubriaco, why you motherfucker? Potete likearci anche quella lì. Io sono su G+, potete trovarmi lì anche su Facebook come distruggitore. Su G+ ci sono diverse gallerie fotografiche di videogiochi. Se vi piacciono queste cose onanistiche, basta, io poi non... A questo punto mi sono rotto le scatole. Chi è che vuole parlare? Io voglio aggiungere una cosa, Cassia Smutnia, che è veramente una topa stratosfera. Poi questi chiaramente sono idee mie, ragazzi, cioè sono anche... Ho letto la Bibbia. Nessuno chiamerà l'avvocato. Io sento una musica in sottofondo. Anch'io sento la musica in sottofondo. Anch'io penso sia le titoli di coda che iniziano a partire, tipo soap opera. Marrone, sei tu? A fare cosa? La musica in sottofondo. Ah, scusate. Lui ascoltava la musica. Beccato. Perdonatemi, penso fosse abbastanza distante. Non era musica, era un video, sì, che stava andando di un altro mio amico, di un mio amico, degli amici di Roberto, certo. Secondo te ci sono dei pro, anche se ovviamente collaterali? Mi riformulate però esattamente la domanda in generale.